Quit eating your burgers off a coffee table. If you want to eat a burger, put it on a bar. Follow your instincts to B-Dubs for the new All-American Cheeseburger. Fresh, juicy beef smashed till it's crispy around the edges, covered in gooey cheese, and stacked to the ceiling with deliciousness. And knock that baby down with a frosted beer at the bar, just like the sports gods intended. The new All-American Cheeseburger at Buffalo Wild Wings. Roar! Please drink responsibly. Dagli studi fuori norma di Italian Podcast Network, con le avveniristiche attrezzature scartate dal terzo mondo, condotto da un coraggioso manipolo di brutta gente e col fondamentale patrocinio di Morgan, va ora in onda Dietrologia Videoludica. Signore e signori, benvenuti alla prima grandissima video trasmissione live in diretta streaming, come se fosse Antani di Dietrologia Videoludica. Perché c'è la mia voce del cavolo a parlare? Ma perché alla fine, come al solito, la pagliuzza più corta l'ho tirata fuori io e mi becco questa cosa. Allora, qui con me ci sono persone che veramente sanno come funziona un Xbox, eccetera eccetera eccetera, per cui lascerò a loro la parola. Prima di tutti al grande Giuseppe Sasso. Buon salve a tutti. Poi il grandissimo Simone Pizzi. Ciao ciao ciao a tutti. E poi Cesare, di cui non ricordo il cognome. No, Cesare Girardi. Iniziamo bene, ciao a tutti. Cesare che è il nostro... Aspetta, diciamolo bene, Cesare Girardi, che è un neo acquisto di Dietrologia Videoludica. Eh sì, esatto, ho iniziato a scrivere da quanto? Da un mese, mi sembra, più o meno. E già si è stufato, tra l'altro. Esatto. No, vabbè, direi di no, dai, è una bella esperienza. Bene, bene, bene, bene. Alex, a te la parola. A me la parola. Beh, allora, in questo momento, se siete collegati con noi all'indirizzo che è justintech.ch/xboxnext, in realtà avrebbe dovuto essere Xbox Antani, ma abbiamo fatto finta di essere persone serie, dovreste vedere un bellissimo schermo metà verde metà nero che dice fra poco stiamo arrivando, porco zio. E in realtà lo stiamo guardando anche noi. Quello che faremo è rimandarvi questa bellissima immagine, che potreste anche guardarvela da soli, però così non sentireste il nostro bellissimo commento, mentre così sentite anche il nostro bellissimo commento, in cui tireremo tutte le insomma tireremo fuori tutto il meglio di noi. Ci sono altri podcast che fanno questa cosa in questo momento, per cui se siete delle persone serie che vogliono sentire persone serie, andate altrove. Noi spareremo veramente cazzate, per cui se volete bervi una bella birra o farmi uno spinello o qualcosa di ancora più pesante e più divertente, rimanete con noi e soprattutto twittate con l'hashtag Xbox Antani. Sì Antani, quello di come se fosse Antani, perché noi siamo quelli che sono poco seri e lo prendiamo veramente nel lato B. Benissimo, sono bellissime parole, non tutti però, perché ricordatevi che insomma, a differenza nostra, Giuseppe Sasso è uno che in realtà un po' ne sa e sicuramente qualcosa di serio dirà in questa trasmissione. L'unica cosa è che sì, Xbox Antani, appunto, come giustamente ha detto Alex, chi ha seguito gli ultimi episodi di Dietrologia Videoludica sa il perché noi abbiamo utilizzato questo nomignolo, perché giustamente non sapendo come si chiamava, se Next, se Giobando, come si chiamava, allora noi abbiamo detto: sentite, non sappiamo in effetti che tipo di nome daranno a questa nuova console, allora la chiamiamo Antani e chi se ne frega. Detto questo, facciamo un primo giro di consultazioni, così giusto tra di noi, per sapere che cosa ci aspettiamo intanto da questa presentazione, visto la presentazione c'è stata già e abbiamo seguito in diretta anche con Luigi Marrone, vi ricorderete, e Stefano Biggio della PlayStation 4, che ci aveva lasciato un po' interdetto. Prima di partire col giro di opinioni, io dico quello che mi aspetto io da questa da questa presentazione: faranno vedere la Xbox, la accenderanno e pom! Sarà divertentissimo vedere la schermata blu con un errore di sistema, visto che Microsoft ogni tanto, ultimamente, insomma, probabilmente anche apposta, ci regala queste piccole perle. Giuseppe. Allora, io butto lì la bomba, sono d'accordo con te per quanto riguarda la presentazione, cioè mostreranno sia la console che suppongo anche il pad, ovviamente. È immancabile, potrebbe, cioè, se vogliono farla veramente abbastanza coreografica, a parte insomma rapper neri e ballerine varie, potrebbero anche ovviamente presentarla in una cornice anche con i Gumi Room, per esempio. Palco, e ovviamente sarà anche l'immancabile il successore del Kinect, in questo caso dovrebbero ovviamente anche genuflettersi a 90 gradi per tutte le carenze della periferica nella scorsa generazione. Poi ovviamente non potranno bruciarsi, presenteranno i giochi, ma non potranno ovviamente bruciarsi troppo in vista ovviamente delle tre, per cui secondo me qualcosa anche di quelli che ci sono già come rumors palesati nelle ore precedenti ci sarà, quindi può essere per esempio un FIFA 14 o un Battlefield 4, però piuttosto che altri progetti che secondo me saranno presentati appunto alla conferenza dell'E3, quale per esempio il possibile nuovo Halo o anche quest'altro marchio che era stato registrato tipo Forza Vista. Questa insomma è la mia previsione, e poi ovviamente non daranno data, perché quella ovviamente se la conservano per l'E3, e io la butto anche lì. Secondo me poi quando sarà l'E3 annunceranno una data, secondo me prima, secondo un'uscita prima di Sony, della PS4 di Sony. Cioè come uscita temporale sul mercato, sì, secondo sì. te prima di... Sì, cioè, sì. Nel senso che Sony l'ha presentata prima commercialmente, ma Microsoft è tecnicamente più avanti con... Sì, sì, devono giocarsi tutto e per tutto. Se fanno una conferenza come quella di Sony del 20 febbraio, insomma, restano sempre secondi. Ok, Cesare. Allora, beh, dopo questo discorso, diciamo, già abbastanza completo, volevo solo aggiungere una cosa, che... Secondo me presenteranno il Kinect 2.0, comunque come si chiamerà, integrato nella console, perché ormai ci hanno puntato così tanto e hanno venduto così tanto che secondo me finiranno per guardare all'utenza un minimo più casual come fondante per la nuova console. Mm. Cioè io mi aspetto nella prossima generazione una PS4 un pochino più sugli hardcore, come è stata l'Xbox, se volete, in questa generazione, e l'Xbox nuova, come si chiamerà, più verso l'Xbox il casual, Antani, diciamolo. L'Xbox Antani, è ufficiale. Eh? Alex, l'hai registrato, vero, questo il sito con questo nome e tutto? Perché così ci facciamo un po' di soldi. Se lo sai, è vero, non ci abbiamo pensato. Siamo venuti. Sì, proprio per lui. Abbiamo soldi da buttare via. Quindi, Cesare, di... Mm-hmm. Dici che Microsoft si butterà un po' più sul casual, ma la Wii non sta andando, perché poi la Wii U, a questo punto, mm-hmm. che in teoria doveva perseguire un po' le orme della precedente, e magari con un'attenzione un po' più verso l'hardcore, quindi un atteggiamento, diciamo, diametralmente opposto, in realtà non sta andando neanche così bene a livello di vendite, mi sbaglio? No, ma la Wii U secondo me ha fallito proprio verso i casual, cioè non l'ha comprata nessuno a parte gli hardcore, Nintendo duri e puri, cioè... Anche perché secondo me il casual c'ha la Wii ancora, quindi... esatto, il casual non è che c'ha voglia di cambiare. Cosa il casual c'ha la Wii e crede comunque che la Wii U sia un accessorio della Wii, soprattutto, esatto. che sia il tablet, che vadano sulla Wii. Esatto, il tablet. Alex, invece tu che ti aspetti? Beh, prima di tutto, prima di dire quello che mi aspetto, vorrei salutare i nostri teleascoltatori che stanno scrivendo sulla chat del nostro canale, che sono Michele Shuren Banchieri, Antonino Necita, Alan Abico e Luca Auletta. Luca Auletta, te lo ricordi Luca Auletta? Come non mi ricordo? Il ragazzo delle tre carte, che adesso è diventato un grande regista del sud dell'Italia, cioè del sud del mondo. Non è il sud del mondo, insomma, è una storia lunga. Cosa mi aspetto? Ma in realtà, tu dici, Cesar, che questa non è l'Xbox di questa generazione è stata una console per gli hardcore gamer. Sì, però hanno tirato fuori il Kinect, che è proprio l'aggeggio casual per eccellenza. Secondo me, boh, secondo me vogliono beccarsi un po' tutto. A me, quando i miei clienti mi dicono io voglio una cosa, aspetta, che... è arrivato l'amministratore di condominio. Per cui, sono arrivate le pizze. Parlate voi, ve la racconto dopo. Ciao, vabbè, ce la racconti fra poco. Vabbè, abbiamo già fatto questo primo giro, insomma, di consultazioni interlocutorie. L'unica cosa è che volevo, ecco, giustamente dirvi che questa sarà una diretta leggermente lunga, perché non soltanto c'è questa pre, ma poi ovviamente ci sarà la conferenza che noi seguiremo, cercheremo ovviamente di seguire in diretta e commentarla insieme a voi, quindi potrete ovviamente interagire con noi, e piano piano si susseguiranno, insomma, vari personaggi di dietrologia videoludica e anche non solo, perché addirittura noi abbiamo programmato un caramba che sorpresa oggi perché ci saranno i due Giuseppi nazionali, ossia Scaletta per archeologia videoludica e il cui presente Peppe. Già sentiamo nel re che sale, quindi probabilmente sta succedendo qualcosa nel video di Microsoft. Ora sto cercando isolarlo, perché altrimenti sarà un po' difficile riuscire a parlare. Secondo voi, quindi, praticamente, ecco, interessante l'idea del fatto del lancio di Xbox prima di PlayStation, ma secondo voi, visto e considerato che probabilmente la differenza la faranno i servizi, di questo abbiamo capito, saranno le due console dei servizi, chi potenzialmente è in vantaggio idealmente rispetto a Giuseppe? Ma guarda, allo stato attuale, parlando ovviamente per conoscenza solo di quello che ha detto Sony ovviamente ha commentato live e si è buttata su questa idea sin dall'acquisto, se ricordiamo, della piattaforma di streaming, cos'era, che Gaikai, mi pare? Sì. Quindi ovviamente tecnologica, e qui stiamo parlando circa quasi un anno fa, quindi comunque credo che sì, e poi che Kair è già abbastanza rodata, quindi credo che strutturalmente siano avanti. Ovviamente Microsoft, per non essere da meno, io mi aspetto, almeno sempre restando comunque nell'ambito delle previsioni, che potrebbero essere smentite tra pochi minuti, eccoci, magari qualcosa, ragazzi, anche più integrata via hardware nella console, cioè capacità di esempio di registrazione di gameplay proprio attraverso processori dedicati all'interno della console. E ovviamente supporterà anche lo streaming in game, perché sarebbe ovviamente folle non prevederlo. Non prevederlo. Ok, intanto che mancano 12 minuti e 50 secondi, questo ovviamente Microsoft inizia con un countdown che tra l'altro Sony non mise l'altra volta, insomma, fece partire il suo video tridimensionale, molto particolare. Stessa domanda la facciamo giustamente anche a Cesare. Allora, beh, per i servizi, io mi aspetto un vantaggio sempre di Xbox, direi, per più che altro per la struttura di Xbox Live, perché la vedo più solida di quella del PlayStation Network, per quanto comunque la Sony sia in recupero, specialmente con il PlayStation Plus, che è un bel servizio. Però diciamo che la vedo in vantaggio più per una sorta di tradizione che può essere facilmente invertibile da una PS4, che secondo me ha le possibilità per partire subito alla grande. Ecco, cioè, io la vedo in vantaggio. Ecco, proprio su questa questione volevo invece poi farvi l'ultima domanda che avevo ovviamente in mente, poi dopo magari speriamo me ne vengano anche altre. Nel frattempo spero che Alex sia tornato, perlomeno dacci un cenno. Sono qua e saluto i nostri 18 ascoltatori. Grandi 18 ascoltatori. Un po' smetterò di dirlo, perché sennò sembrano pochi. No, vabbè, ma 18 ascoltatori per una trasmissione come dietrologia videoludica, insomma, sono sicuramente tanti. Allora, Sony rispetto a Microsoft, ovviamente, è una tradizione generazionale più ampia, no? Probabilmente Xbox 360 in qualche maniera ha preso un po' in contropiede, paradossalmente, perché poi era già la seconda console, ha preso in qualche maniera in contropiede Sony, che per un periodo di tempo, anche dal punto di vista della strategia politica, diciamo, non è che ha dato il meglio della sua brillantezza. In una quarta generazione come questa, e sarebbe poi la terza per Xbox, per Microsoft, potrebbe riuscire fuori a questo punto proprio l'esperienza, Giuseppe? Per esperienza intendi in generale? L'esperienza sul mercato specifico, no? Perché comunque sì. Microsoft in realtà questo mercato per lei se lo ha inventato. Sì, sì. No? Mentre che invece plurigenerazionalmente Sony era già presente sul mercato. Secondo me, ho detto, ne devono assolutamente fare tesoro, e secondo me sì, anche perché potrebbero uscirsene fuori anche con qualche offerta interessante, tra virgolette, appunto un live rinnovato è quello che auspichiamo tutti, e spero ovviamente che ci sia qualcosa di analogo anche al PS Plus, e soprattutto, cioè, sarebbe la bomba, ma non penso che sarà mai, o rendere, diciamo, una serie di servizi base esattamente gratuiti come il multiplayer, come è stato da sempre per PS3, oppure fare appunto un forfettario ancora più conveniente del PS Plus, che appunto permetta di ottenere, cioè, non solo appunto servizi per quanto riguarda il multiplayer, le chat, eccetera, ma anche davvero dei giochi gratuiti. Secondo me è questa l'unica cosa con cui può spuntarla. Poi, diciamo, tutte le altre sono cose prettamente accessorie, come abbiamo detto, lo streaming dei giochi, magari come anche ha fatto Sony, il potere giocare un gioco mentre lo stai acquistando in download, nella coda di download e quant'altro. Questa, insomma, è la mia la tua idea. Sì, sì. Cesare? Ma oddio, la domanda ci siamo un pochino persi, cioè se l'esperienza conta. Se l'esperienza conterà. Di Sony, adesso che comunque il gap, come posso dire, dell'effetto sorpresa selvaggio di Xbox 360 mm-hmm. è finita, se poi ora può riuscire fuori in una condizione di pareggio di partenza, perché poi in realtà Sony, anticipando Microsoft, ha un po' pareggiato i conti per certi versi, si può uscire appunto l'esperienza a questo punto. Sì, direi più che altro, più che l'esperienza, Sony si è giocata tutte le cavolate con PS3, cioè, ne ha già combinate, cioè, di ogni più stronzate di quelle, dice, non si ma può fare, soprattutto non c'è più Casirai, quindi esatto, quindi ovviamente esatto, infatti l'hanno eliminato, adesso anche Kutaragi mi sembra che l'hanno eliminato con violenza, quindi sicuro. Beh sì, conoscendo i giapponesi di sicuro non è che gli hanno detto prego, si accomodi. Sì, probabilmente si sarà anche suicidato, cioè. Gli hanno detto Zero! Zero! No, devi allora, dirla bene. Mancano 8 minuti sì. e 10 secondi, Alex, dato che tu eri dovuto andare in sala regia perché ti è suonato il campanello del mixer. No, erano le pizze. Okay. E stavi dicendo che cosa ti aspetti? Secondo me loro vogliono tutto, di tutto e di più, vogliono la roba hardcore, la roba social, la roba che va bene per le vecchiette, la roba per i bambinetti, per i bimbi minchia. È ovvio che quando hai un mercato così grande lo vuoi tutto e tutto di più. Secondo me faranno una cosa che va bene per uno e per l'altro. Il grosso problema di Kinect era che il Project Natal in origine era un oggetto che aveva un hardware dedicato. Per risparmiare sui costi di produzione hanno detto tagliamo questo hardware e lo facciamo via software, perché, per cui gran parte delle risorse di sistema erano dell'Xbox erano impiegate a decifrare dati del Kinect, per cui i giochi Kinect erano ovviamente delle cose molto semplici, molto basilari, molto, molto morbide, diciamo. Questa volta altro non solo basilari, ma anche comunque non funzionava, era comunque una tecnologia fallata, era difficile. Quello che mi aspetto è che stavolta che parte direttamente col Kinect, che sarà parte integrante della cosa, insomma la cosa funzioni anche abbastanza bene. Almeno siamo sicuri che come titolo di lancio non ci sarà un altro Star Wars Kinect. Mamma mia. Mamma mia, come diceva, quanta monnezza ho visto in vita mia. E nel mentre dallo streaming di Twitter c'è Michele che dice seguire Xbox Antani o Xbox Rumble o addirittura fare qualcos'altro. Michele, insomma, noi siamo anche un po' amici, cioè ci conosciamo, insomma è ovvio che tu rimani qua a ascoltare noi, ma soprattutto ogni tanto se hai da dire qualche cosa, commentare, criticare, soprattutto insultarci, sappi che sono, siamo perfettamente a tua disposizione. 6 minuti e 15 secondi, che volete... cioè avete qualche cosa che vi siete segnati, che volete dire, qualche previsione o qualcosa che volevate dire, magari a me mi è sfuggito come domanda. Ah sì, un'altra killer application che potrebbero presentare è il porno. No, non lo faranno mai. Non lo faranno mai. No, è ufficiale, ufficiale. Sì. La cosa. Cioè, visto che si è messo in linea, perché già era disponibile di fare tra i servizi video in streaming sulla console di Sony, ovviamente Microsoft non deve essere da meno. E ovviamente magari con la nuova tecnologia, sia il LumiRoom che la nuova Kinect 2.0, potrebbe avere delle applicazioni interessanti. Vabbè, a parte il LumiRoom, che poi magari ne parleremo, nel senso vediamo se veramente la cosa abbia un senso. No, e questo ce ne può fregare fino a un certo secondo punto. Secondo me ce l'hai, ecco, come? La notizia che ho letto ieri su multiplayer.it, questa cosa insomma del porno su Xbox Live è ufficiale, quindi insomma è interessante, insomma, questi veramente vogliono acchiappare qualsiasi cosa adesso. No, vedi che tirerebbe molto, a parte gli scherzi. Beh, che scherzi, quello è già a prescindere, no? Quindi si sa che è così in generale su figurate poi su una console, mentre che Sony aveva un atteggiamento un po' più, cioè, cercava di edulcorare un po' più puritano. Eh sì, è più giapponese da quel punto di vista, insomma. Cesare? Ma io direi, anticipandovi prima che lo diciate voi, l'annuncio di Mass Effect 4, così. Oh mio Dio. L'annuncio di Xbox. Secondo me, a parte gli scherzi, è probabile. Un bel gioco esclusiva di BioWare. Un bel gioco di EA, secondo me, magari non in esclusiva totale, ma temporale. Temporale, anche perché oramai tecnicamente non ha neanche più senso, no? No, comunque. Ci potrebbe, scusami Simone, stare comunque il discorso dell'esclusiva almeno temporale, perché ricordiamo che ci dovrebbe essere questa presunta partnership con EA di Microsoft per esatto. Diversi giochi. Infatti non c'erano all'annuncio di PS4, quindi sembra abbastanza sospetta sta cosa. Beh, sta sempre puntato, no, su questo. Oh madonna. Anche col software acchiappa, cioè nel senso acchiappa ed escludi gli altri, che è la cosa principale. Il discorso che ovviamente tecnicamente sappiamo che oggi l'esclusiva assoluta non esiste, ma Mass Effect stesso ha dimostrato che non esiste più il concetto e non è più neanche conveniente per una software house, a meno che non sei Quantic Dream e che comunque qualsiasi cosa tu fai Sony continuerà a darti miliardi a prescindere. Chiaro che non conviene, no? L'esclusiva assoluta. L'esclusiva temporale invece probabilmente sì, e sicuramente Microsoft qualche carta oggi da presentarcela, anche se no insomma solo la console sarebbe un po' tristina, no? Ci siete reattivi in questi 3 minuti e 3 secondi che mancano all'intro di questo momento. Alex, tu che ci dici? Questa cosa del porno t'ha lasciato un po' basito. Sì, effettivamente potrebbe essere la killer application per i bimbi minchia, cioè, o anche per me, cioè. Ma tu devi comprare l'Xbox, dov'è? Sì, anche, in realtà il porno è la killer application di internet, dato che ormai si trova free ovunque con grande facilità senza, cioè, io mi ricordo quando ai nostri tempi c'era avere una VHS porno era qualcosa di dire oh figata, adesso cioè basta che vai Xhamster o Pornhub, quello che vuoi, cioè. È talmente facile trovarla gratis che dipende da che tipo di qualità usano. Cioè, magari se fanno un'interfaccia in cui c'è il Kinect, consente di pilotare il porno, allora secondo me hanno vinto tutta la vita. Tipo POV. Point of view, dice. Sì. No, ma anche proprio come controlli. Muovi il bacino. come interattività. Ecco. Ah, ok. Certo è particolare come cosa offrire come servizio qualcosa che in effetti trovi ovunque, questo è un po'. Ma piuttosto secondo voi, a parte gli scherzi, visto che PS4 ha rivoluzionato, cioè Sony con PS4 ha rivoluzionato il pad, secondo voi analogamente Microsoft presenterà sostanziali modifiche al joypad, al controller della nuova Xbox, oppure sarà uguale? Magari ci aggiungono un grilletto. Secondo me il grilletto share, effettivamente. No, il grilletto era un'altra cosa. No, vabbè, a parte queste simpatiche battute, no, probabilmente analogamente a quello che ha fatto Mike, cioè, però sarebbe stupido dire che faranno quello che ha fatto Sony, mettere un capacitivo all'interno. Secondo me no, perché comunque dopo tutto ricordiamo che appunto Xbox punta anche sui non controller, cioè sui non controlli, cioè il Kinect. Quindi secondo me il pad resterà invariato. Allora, un minuto prima della presentazione, risposta secca, Saso, sei Xbox Aro o PlayStation Aro? No, per sapere come ti approcci. Sono per i videogiochi e basta. Per i videogiochi. Esatto, per l'esperienza ludica più pura a prescindere dalla piattaforma. Cesare? Ma direi PlayStation Aro, anche se ne ho tutte e due. Sì, io sono PlayStation Aro, ho avuto anche l'Xbox, si è squagliata per due volte, quindi PlayStation Aro, quindi. Però siamo per entrare in questo. Ah, Alex, tu non sai che, ripeto, cioè io ho vissuto queste cose indirettamente tra mio fratello e lui, le aveva tutte e due, ma secondo me entrambe hanno grandi punti di forza per cui possono coesistere. Il fatto che adesso diventano fondamentalmente praticamente lo stesso hardware, a meno che Xbox praticamente non lo so, oppure che ne so, Xbox tirerà fuori, no, questa si basa sulla tecnologia Cell. È cominciato un pre-cosa con Larry, con Major Nelson, almeno accanto a una biondina, esatto, sappiamo chi è, Tina Summerford. Come potevi non saperlo? La famosissima Tina Summerford, che stava facendo questa specie di pre-introduzione. Sì. Poi ecco qui dove insomma è importante che intervenga anche il buon Alex, nel senso che io farò un po' fatica a seguire una cosa e poi parlare. Beh, quindi se sento te che parli, non sento loro che dicono cose. questo è chiaro. Quindi, come lo seguiamo questo fatto? Ma no, cioè, ma guardiamo le figure, chi se ne frega. Ah, ecco. Allora, ecco, lei sta dicendo: io sono bionda, che cazzo me ne frega dei videogiochi? Ma lui ha una faccia intelligentissima. Io non sono biondo, ma la bionda me la sbatto. Cioè, io faccio la traduzione. Attenzione, abbiamo subito questa che bello prima volo. Intro fantapanoramica. Vista dall'alto con una capannone, sì. Quello che hanno già postato. Oddio, sta partendo qualche trailer. Sta partendo. Oh, un porco trailer. Zio, è mature 17 più, ragazzi, non guardatelo. Bill Gates, non lo so chi è. Una donna, un pelato. C'è della gente che parla. Questo secondo me è lo spot di presentazione di Xbox. C'è gente che ovviamente esprime opinioni a casaccio. Siamo veramente il traduttore simultaneo, se lo siamo perso. Sì, io non c'ho neanche i sottotitoli, quindi in questo momento per me forse ho scelto il canale sbagliato, sarà veramente un po' problematico. Se avete fatto caso, attenzione, però tu sei in vantaggio di qualche secondo rispetto a me, quindi a questo punto fa più fede quello che dici te, perché quello che dirò io è già vecchio. Ma il riassunto è che è bella l'Xbox, Microsoft è una figata, eccetera eccetera, viva la figa, sono solite cose che dicono, no? Gli stessa impronta degli spot o dei mini doc di Apple, insomma, questo aspetto felice. Però e bello. Apple non usa la camera a mano. Molta di campo sulle inquadrature. Cesare, tu che opinione ti stai facendo? Guarda, la prima opinione è che ho un ritorno devastante di tutti. Esatto, c'è, cioè, qualcuno deve abbassare il volume, infatti. La seconda opinione direi che è abbastanza triste questa. Ma no, è bellissima questa scorcia, oh, di presentazione, diciamo. Luci sul palco. È tutto verde, come Matrix. Vediamo come si Matrix chiama sul palco. Xbox. Si chiama Xbox. Don Matrix. Chi è Don Matrix? È questo. Ok, ma chi è? Don Matrix. Buongiorno, non so che l'ho capito anch'io. Microsoft campus at home of Xbox. Don Matrix è il capo della divisione Interactive Entertainment Business di Microsoft. Ah. Vedete perché abbiamo Saso? Sì. Il problema è che c'è sempre un ritorno in cuffia che mi impedisce di capire bene, quindi o è Alex o è Cesare o è... Io li posso ascoltare con una sola cuffia, siccome ho le cuffiette, cioè gli auricolari, con un solo auricolare e l'altro l'orecchio alla televisione. Ah, ecco, quindi entra il tuo audio direttamente sul... No, ma la televisione vedi che è distante, come la televisione. Sta parlando di Xbox Live. Xbox Live è bello, è figo. Addirittura sta mostrando la prima dashboard, chi se la ricorda? Sì. Quindi partiamo proprio dalla protozoo storia. We wanted more competition and bigger communities, so we doubled down on Xbox Live. With Kinect, we made you the controller. Con Kinect abbiamo reinventato il controller. In peggio, direi. Sì, esatto. Poi non è che l'hanno reinventato loro. Io mi dissocio sempre, ragazzi, lo sapete. Vabbè, ho capito. Ora tutti i loghi delle partnership. Sì. Tutti quanti i loghi. Che per la dashboard. C'è molto lag rispetto a quello che è la realtà, perché vedo su The Verge che le foto sono in anticipo rispetto al video. Ottimo, così potremo commentare in diretta. Loro ci fanno la traduzione. Siamo ancora su Xbox 360, questa specie di percorso introduttivo che ci porta fino a quello che dovranno dire. Speriamo che non sia poi un po' quella sensazione che abbiamo avuto con PlayStation, quindi molta teoria e veramente poca pratica. Perché hanno detto non abbiamo presentato l'estetica della console, che sarà mai, invece la gente incazzata fragile. Devono anche pensare che non esiste più l'estetica, ormai gli oggetti fisici non ci sono più. Ma infatti secondo me il senso... L'avete visto nel video di ieri, quello che dove Sony ha fatto vedere e non vedere la... PS4 che sembra una specie di cubo. Quella è pornografia per otaku, dai. Ma sì, ma poi oramai ci giocano su sta cosa, no? Perché secondo me ha detto bene Alex, il fatto che stanno puntando tutto su una serie di concetti, di servizi che sono più appunto, sono più servizi che presenza fisica. E alla fine, in qualche maniera, magari sarà veramente una scatoletta anche brutta, magari da vedere, no? Però è quello che è la sostanza, quella che loro vorrebbero produrre. E mentre comunque torniamo, lo state seguendo quello che sta dicendo Cesare? C'è ancora? Cesare sta capendo tutto, lui è il nostro uomo alla mano. Sei concentrato e fino adesso che idea ti sei fatto? Sto traducendo istantaneamente. E traduci, attenti, perché noi siamo ignoranti. vedi che fare una diretta come questa, lo abbiamo detto l'altra volta, e soprattutto non è che noi siamo avvezzi a fare. Ok, la nuova missione è progettare, costruire un sistema all in one che possa fare qualsiasi cosa, anche il caffè, che renda la nostra TV più intelligente per la nuova generazione. Signore e signori, vi introduciamo Xbox One. Si chiama uno. Sono tornati indietro di 359. Attenzione, sono tornati indietro. La fanno anche vedere. Dio, che scatolotto è. Osteria. Ma che brutta cosa, però, nel momento in cui guarda l'elepipedo nero. Questo è un po' fa un po' Sony PlayStation 2 questa cosa, Vento, un sacco di vento le direzioni. Allora, Xbox One, ragazzi, Xbox One filosoficamente significa questo è tutto e uno. Questo è un po' il concetto che già non so se avete visto il nuovo Kinect pure in alto. Sì, noi abbiamo fatto finta di non vederlo. Purtroppo il Kinect per noi non esiste. Però non devo dire che è Alex, ha una sua eleganza tutto sommato. Hai visto il controllo? Ecco, è fondamentalmente lo stesso. No, lo stesso. No, aspetta, i tasti back e select sono diversi, hanno delle iconcine, quindi sarà uno pseudo tasto. Intanto abbiamo abbandonato quel bianco che si sporcava. Cloud Power non vorrei che significa che non c'è quasi hard disk e tutto in cloud. No, speriamo che no, sarebbe una follia. Only one, vedi? Xbox One. Quindi d'ora in poi e c'è gente che urla mentre dopo la fine di questa presentazione video, dove abbiamo visto l'estetica e alcuni concetti base, allora, espressi in testo, ragazzi, ovviamente. Lo dico dalla regia, voi potete attivare i sottotitoli, cioè se cliccate nella finestra c'è CC close caption, vi fa vedere i sottotitoli. Okay. Se vuoi li metto anche per i nostri teleascoltatori, sì, anche nella mia. And continuously improve the generation ahead. In designing Xbox One, we've obsessed about every minor detail. Non funziona. In every engineering model. Bene, bravi, complimenti, un bel servizio. Ma no, perché loro hanno comprato questo player da questa azienda che si occupa di streaming. Che gli frega? Ma se li facessero ridare i soldi anche. Please welcome Yusuf Mehdi to show some of the new experiences you'll find only on Xbox. Nuove esperienze che troverete solo su Xbox. Ora servizi praticamente. Yusuf Mehdi, chi è Mehdi? Sasso, tu che devi sapere le cose. Sasso, questa gente tu la devi conoscere, non essere i tuoi amici. Here at Xbox, it's no secret that we love games. Aspetta, YouTube Mandy, sta tizia. No, sto tizio, anzi. Se confonderlo per una donna, insomma. One, eppure piuttosto bruttino, diciamo. Ma no, c'è di peggio nella vita. Potrebbe essere Zoppo. È sempre senior vice president di Interactive, di Microsoft Interactive. Ok, quindi la sezione dedicata ai giochetti. Esatto. È un uomo interattivo, insomma. What if a single device could provide all Alex, vai. Cosa se un singolo device potrebbe proporvi tutto l'entertainment, tutto l'intrattenimento? E se potesse arrapare la tua TV? C'è proprio la traduzione letterale è quella. Turn on your TV. Che poi vi ricordate quando guardate l'interfaccia. Quando era PlayStation 2, quando notate che c'è Homeland in basso a destra, la mia serie preferita. La nuova dashboard praticamente è simile a sempre, usa sempre l'interfaccia Tiles. Vabbè, è Windows 8 praticamente. Hanno esatto. Comprato una ma questo non è che c'è studio di usarla. E non si scosta poi neanche tanto da quella attuale. Vabbè, però ci sta perché questa è un'interfaccia, forse una delle poche cose insomma che in qualche maniera hanno funzionato. Dico, vi ricordate con la PlayStation 2 quando si parlava delle console, delle PlayStation, quindi della cosa come l'elettrodomestico, no? Quindi la macchina che sarebbe stata in grado di fare qualsiasi tipo di cosa inerente all'intrattenimento, ritorniamo un po' a quel concetto lì. Da quello both with my friends, Cesare. With the entire Xbox Live community. Ma questa interfaccia, oddio, è molto simile a quella dell'Xbox 360, cioè alla fine non è che dica molto di nuovo. Cioè sarà funzionale, però A me diciamo effettivamente, come hai detto tu, l'elettrodomestico è come se ti stessero vendendo una specie di non so, anche dall'estetica mi ricorda è presente i penultimi videoregistratori come grandezza, proprio l'estetica vista frontalmente mi ricorda quello, quindi come un player, esatto, lo comanda con la voce. And with that simple command, I'm watching live TV. Sai come funzionerà bene con i dialetti italiani questo? Puoi guardare la televisione, un Apple TV solo che non ha Microsoft TV. Sì, però ragazzi, in Italia non avranno mai servizi, cioè figuriamoci se si mettono d'accordo. Ok, si erano messi d'accordo con Mediaset, però non so fino a che punto. Beh, loro hanno un preaccordo con Sky, no? Sì, appunto, con Sì, con Sky? Sì, c'è Sky su Xbox. Sì. Ok. Go to music. Sì, è una specie di triunvirato Xbox, Microsoft, Fastweb, Sky, insomma. Ecco, c'è questa bella donna che è una specie di ok, il prezzo è giusto. Sì, ma perché ce lo sta continuando a far vedere? Vabbè, basta. Ora sono passati ora a scrivere gli anelli, cos'è? Sembra un video, no? No, c'è proprio che il prezzo è giusto sempre. Oh, però c'è il sole nel frattempo. Un bel lens flare. Siccome sono il mastro delle lens flare, secondo me è un bel lens flare. Quello credo che sia ritornando a quello che diceva Giuseppe prima sul fatto dello scatolotto del videoregistratore ultima generazione. In realtà, secondo me, pure la dimensione dell'Xbox è un po' studiata per dare questa sensazione. Cioè, è così grossa perché fa tante cose. In realtà, magari tecnologicamente anche inutile, no? Come dimensione. Quello è Star Trek. Più marketing che quando vedere il tuo film preferito. Oh, guarda un po' Star Trek di JJ Alex. Lo so, te l'ho detto io, se tu non lo avresti mai cagato in casa. Back to the movie. And again, this is not only now simple, but it makes it instant to get what you want. Hanno fatto praticamente il multitasking tra vedere un film e streaming è una trasmissione veramente impressionante. No, allora, diciamolo, per vedere la pelle d'oca mi è venuta. la differenza tra vedere in streaming Star Trek e ok, il prezzo è giusto, siamo precisi. Sì, in effetti ci deve essere una paurosa capacità di calcolo, anche perché a meno che non ci sia, ma c'è un lettore, un player di qualche genere dentro, perché questo poi bisogna avere capito. Ma sì, avrà dentro di cosa sta. Dal frontalino effettivamente non ho guardato bene, anche perché hanno fatto dei 3 secondi, però non avevo avvistato un vero e proprio pertugio. Esatto, un po'. Ma in realtà quando tu compri il CD del gioco e lo tiri fuori da là e lo avvicini all'Xbox, Xbox lo sa, si mette in piedi, apre uno sportello, prende un braccetto, lo prende dalle mani, pensavo che lo digitalizzasse. Addirittura lo scannerizza e già si dice, non c'è bisogno, già so io quello che c'è sta dentro. Comunque vi faccio notare che Xbox Antani è praticamente il trend topic mondiale in questo momento. Sì? No. Lo sai? Sì, no. Ma è anche, legittimo tutto sommato, dopo che quel qualcuno ha twittato ora sempre Major Nelson che Xbox One ha Skype incorporato. Giustamente Vincenzo Nardelli ci fa notare lo stile secondo Microsoft, keynote in una tenda, perché hanno fatto vedere l'inquadratura di questo tendone dall'alto, giustamente. E dice che Alex aveva previsto tutto. Io avevo previsto tutto. Allora, dedicato al BB. Adesso vi mando il link. Scusate, mando il link a tutti quanti per vedere il video direttamente sui device portatili. Perché la pagina mi sa che non funziona. Per cui, questo è il link. La nostra pagina non funziona? No, funziona, ma non funziona con i device portatili. Per cui, mando il link diretto. Per chi usa dei device portatili. L'ho twittato. Aspettate che io l'NBA, certo. Vabbè, ci sta. Anche perché dovevamo presentare 3 giochi, era già confermato sempre Ma questa in realtà non è l'NBA, questo è il prossimo NBA live su Xbox, vedi che grafica che c'è. Ah, però è fatta bene, però si vede che Sì, si vedono i poligoni. I polimeri anche. E a questo punto possiamo parlare con Xbox One, abbiamo capito, e quindi gli chiederemo, ma Assassin's Creed è morto? Cesare, parla, dici qualcosa, tu sei il giovane, noi siamo i vecchi. Avete ragione, che sono molto concentrato nel vedermi questa splendida partita di basket, devo dire. I primi minuti di questa presentazione mi stanno proprio prendendo come una lettura recitata di Shakespeare, cioè non lo so. Certo, immagino che sei presissimo. Ma quello che io non capisco delle interfacce vocali, no? Esiste un comando, un precomando chiaramente, tipo Xbox cambia canale, eh? Perché io non l'ho mai utilizzato cose del genere, quindi sì, dovrebbe esistere, ma non penso funzioni così bene, perché tendenzialmente Kinect fa un po' bene. Sì, no, ma non parliamo male di Microsoft in sua assenza. Sempre fare come prima parola, sempre Xbox fai questa cosa. Ora non so se magari è cambiato. No, anche perché, cioè, magari, che ne so, sei sul divano con tua moglie, dici, ah, che fai, ti cambi, e quello, track, cambia canale. Senza io vorrei farvi notare, è una console di videogiochi e a 17 minuti dall'inizio non ho ancora parlato di videogiochi. E ancora non abbiamo parlato di giochi. Vogliamo vedere i giochi o la figa? Nessuna di queste due è stata rappresentata fino adesso. questo però mi fa riflettere già soltanto su una cosa, e facciamo subito un rapido giro proprio di risposte. Che sì, Sony ha puntato molto sull'aria fritta per certe cose, ma ha parlato di videogiochi, servizi annessi ai videogiochi. Xbox sta parlando di tanto altro. Quindi significa che Xbox si sta spostando di settore? Eh sì, direi di sì. Anche perché non è più uno scontro diretto a questo punto. Cesare, ma oddio, no, scontro diretto rimane, cioè a livello tecnologico, però tendenzialmente il target non è più lo stesso. Allora non è più uno scontro diretto. Allora vuol dire che Microsoft non se l'è, o ha veramente un'altra idea o non se l'è sentita di andare a fare la capocciata contro il colosso tornante, diciamo così, o ritornante. Però non si spiegherebbe del tutto la potenza che dicono essere simile tra le due macchine, cioè cosa se ne farebbe? Vabbè, il problema è che bisognerebbe vedere dentro il mio MySky che tipo di hardware c'è sta dentro, no? Nel senso, è che oramai, vabbè, sì, sicuramente sarà una console che andrà a parlare di videogiochi, però certo che iniziare così, boh, è anche, sì, forse magari un modo per non giocarsi subito quello che tutti aspettano, però, boh. Comunque si sta spostando. Che sia un gran finale, allora. Cioè. Comunque si sta spostando, in qualche maniera, vuoi o non vuoi. Alex, tu che dici? Ma si è spostata sicuramente, cioè è la gamification della vita o la lifeification del lifeification game. Lifeification at Xbox. Ok, vedo che avete trovato la giusta cosa. Abbiamo capito. Aspetta, questo qua dice è un momento di vedere cosa c'è sotto la, sotto il cofano. Questo è corporate vice president e general manager di Xbox Live. There's an amazing amount of technology. C'è un sacco di tecnologia, porco zio. Adesso vediamo cosa ci sta sotto. Penso che appunto dovrebbe parlare dei servizi per i propri live, quindi allora va che speriamo game. La rivoluzionaria architettura di Xbox One. La rivoluzionaria sembra un po'. The controller and smart glass. And third, Xbox Live reinvented by the power of the cloud. So Xbox Live è reinventata dal potere della nuvola. Sì, ho detto, mi spaventa molto perché potrebbe significare anche nessuno, davvero nessuno al disco solo servizi cloud. Può essere. Aspetta, vediamo cosa significa, che davvero non avrebbe uno slot. C'ha l'hard disk, 500 giga. 5 miliardi di transistor, 8 gigabyte di RAM. Wi-Fi Direct. Come l'Xbox, come la PlayStation, sì, è una PlayStation con un'altra scocca, diciamo. L'hard disk da 500 giga, Blu-ray, Wi-Fi, HDMI in-out, USB 3.0. Blu-ray è la sconfitta, ragazzi. Ma perché? È perché moralmente dice, ha ragione Sony. Avevano già perso prima. Non potevano ripresentarti un'alternativa al indecente, diciamo. Quello all'HD DVD che già era stato un flop, dai. Sì, sì, sì. No, vabbè, ma perché dicevano che il Blu-ray era un fallimento. Però quando ti trovi un Final Fantasy su 5 DVD, mentre che su PlayStation era su uno solo, capisci bene che, insomma, voglio dire, qualcosa non funzionava, no? Nel concetto, questo era un po'. Però loro insistevano. Perché dicevano che c'erano ragione loro, ma sai che aborigine famoso. Scusa, aborigine l'HD DVD era anche una cosa più semplice, più immediata, una giusta evoluzione del DVD. Sony ha veramente rotto tanto le palle sfruttando il fatto che aveva Columbia per poter far sì che usassero il suo sistema, più che altro per una prova di royalty, non tanto perché era fosse più bello o più figo. Beh, però comunque mette più vede 25 giga all'interno di un disco solo, capisci bene che è funzionale anche mentre che Saso però sta dicendo qualcosa. Scusa Saso. Comunque è divertente, scusate, loro non hanno parlato di bit e gigaflop o megahertz, hanno parlato di transistor, cioè stiamo tornando nel a Star Trek del 1968. Esatto. Quante valvole c'ha la nuova Xbox? Sto controllando i circuiti del computer. Sono bei momenti di calcio, diciamo, giusto? Cioè, bei momenti di calcio, sì. Sì, direi di sì. Tra l'altro io ho scoperto che il nuovo PES avrà il motore del Metal Gear nuovo, quindi... Cioè, praticamente quando giocherai interromperai il gioco per mezz'ora, ti dovrai sorbire una cazzata. Attenzione! Peppe Scaletta! Non su Xbox Live, ovviamente. Facciamo un test. Giuseppe Scaletta, ci senti? Games and applications will create new experiences. No, direi che ancora non ci sente, però Giuseppe, quando sarai dei nostri. Allora hai disattivato il microfono, assicurati che dalle impostazioni non si è disattivato. Questo è un grandissimo crossover tra dietrologia e archeologia videoludica, il davanti, esatto, e il dietro, esatto, del videogioco. Ciao, ecco, Giuseppe! Allora aspettate, permettetemi, mentre che gli amici di Microsoft dire le loro minchiate, questo è un momento crossover tra dietrologia e archeologia, ma soprattutto due grandi amici d'infanzia che si rincontrano, Giuseppe e Giuseppe. Ah, ramba che sorpresa! Passiamoci! Notate, ma guardate la tecnologia. In un abbraccio eterosessuale. Ovviamente, guarda, specifichiamo. Guardate la tecnologia del Kinect. Intanto stiamo vedendo il Kinect, sì, quanto dovrebbe ora riconoscere. Qualche precisione, esatto. Impressionante. Ce ne frega tantissimo anche di questo, poi chiaramente. Sì, Giuseppe, tu non so che Scaletta, so che ovviamente sei in una condizione di emergenza, quindi probabilmente non hai potuto seguire molto. Non moltissimo, a tratti, mentre ero nella mia navetta che mi portava lontano da Redmond, perché sapete, io ero lì fino a poco fa sono tornato a casa per poter unirmi a voi. Okay. Xbox One, cioè nel senso la macchina che è tutto in uno, questo è un po' il messaggio. Che però si sposta un po' come segmento di mercato. Mm-hmm. E dove si colloca? Si colloca nell'elettrodomestico che fa un po' di tutto, e alla fine speriamo che qualcosa bene faccia. Infatti. Non so se avete letto, ma Larry Majorness ha twittato che il nuovo Kinect, ha un campo di vista a 1080p. Campo di visuale a 1080p. Quello era il minimo che dovevo mettere dentro. Vabbè, se ovviamente hanno fatto vedere la precisione teorica con cui ti conosci ora, tutta la struttura di una persona. Allora, the new Kinect sensor is the binding power between these devices. When you press power on or volume up, Cesare, sei ancora vivo? Sì, sono ancora vivo. E sei sempre più stupefatto, immagino, no? No, comunque questa cosa del Kinect un attimino potenziato può essere interessante, perché secondo me il Kinect non funzionava perché non era adeguatamente supportato dalla tecnologia. Io credo almeno che un Kinect un attimino più performante potrebbe essere sfruttato bene, secondo me. Nella prima generazione con Xbox 360 loro il Kinect l'avevano acquisito, l'hanno modificato, diciamo, per renderlo economico, e l'hanno buttato sul mercato. Era un po' una sorta di beta testing di quello che poi probabilmente sarebbe successo successivamente e che sta succedendo adesso appunto con la Xbox One. Il problema è capire, ne abbiamo parlato in una puntata specifica di dietrologia videoludica, quanto poi in realtà questi sensori di movimento siano realmente funzionali all'esperienza di gioco. Ma poi rientriamo in un discorso più soggettivo, insomma, che altro. E insomma, Alex, dopo aver visto che possiamo vedere, ok, il prezzo è giusto. Abbiamo visto un Kinect con una griglia sensoriale più ad alta risoluzione. Abbiamo visto un nuovo controller con 49 tasti. No, 49 pixel. A quanto pare dovrebbe avere uno dei tasti, dovrebbe, di quelli piccoli nuovi con l'icona, dovrebbe essere un tasto snap. Cioè per fare un'istantanea, non so se presumo sia video che immagine durante il gioco. Alex, mentre penso stia chattando con mezzo mondo. No, è Cesare che sta guardando altri podcast nel frattempo. No, devo dire che gli hanno fatto un'offerta dalla concorrenza. Ehi, tu mi sembri che stai facendo lì? No, non male, però finalmente una tech demo, signori, guardate, look at the tech demo. Oh, tech demo ci interessa, vai Scaletta, ci sei? Sì, pure tu. Io ci sono, ma non vedo assolutamente nulla, perché a quanto pare il sito Xbox in questo momento è sovraccarico. Peppe, c'è la Xbox che puoi accendere e vedere in un'altra bellissima stanza. Bella fregatura. Vabbè, potresti guardare il nostro live. Ci ho anche provato. Non ci sono riuscito, mi ha scatti. Ok, Justin Rosati chiede se Xbox Antari fa anche il caffè, la risposta è sì. però voi descrivete, che io certo è un peccato perché la nuova, a quanto pare, sempre tweet di Major Nelson, ci saranno ben 15.000 server a potenziare la nuova. No, hai letto male, 15.000 sono oggi, quest'anno saranno 300.000. Ma riusciranno a tenere indietro al passo tutta questa potenza? Guarda che Xbox Live è sempre stata una cosa che funzionava veramente bene, dai. Ogni tanto però pure qualcosina. Sì, ma vuoi metterla? I'm proud to introduce Electronic Arts. Vuoi metterlo anche perché Microsoft, che non è mai stata simpatica, diciamo, ai, come posso dire, ai rivoluzionari anarchici dell'informatica. Cioè, EA Sports is in the game, attenzione, porco due. C'è in the game, attenzione, vediamo, non mi dite che fanno esclusive, perché sennò qui io meno un sacco di gente. Che te frega di EA Sports? No, me frega, perché io FIFA, lo sai, che sono fifaro, per esempio. Se giochi a FIFA? FIFA esclusiva Xbox, mi tocca andare a menare un sacco di gente. Anche se credo che non lo farebbero mai, cioè sarebbe una follia commerciale. So che a scaletta i giochi di calcio non li gioca, anche se da piccolo era costretto. Sì, ero costretto. Ovviamente tutti i miei amici organizzavano i tornei e io bellamente o facevo finta di dover uscire oppure mi mettevo con la squadra quella fetente. Tanto per me non la squadra fetente. Ecco FIFA 14. Attenzione, ragazzi, ma stanno fatto pure NBA Live, infatti. Sì, ma perché li stanno presentando con Xbox? Non, cioè, sta cosa no, non sta mi... dicendo, noi li stiamo sviluppando. Will be revolutionary. Guardate che bel mascellone, il tipico uomo di marketing. Sì, ma infatti questa è della divisione sempre innovazione di EA Sports Ignite. EA Sports Ignite. Engine that we're unveiling for the very first time. Il nuovo motore. Fatto un trailer. Finalmente un po' di tecnologia, ragazzi. EA Sports Ignite is designed specifically to help us blur the line between real and virtual. Ok, questo engine è stato pensato per rendere più sfumata il confine tra realtà e finzione. Paura. Esatto. Human intelligence. Insomma, dice è fighissimo, è bello, va velocissimo, c'ha il cazzo duro, cioè sono tutte cose che dicono. Living worlds. Non avete mai visto una cosa del genere? Let's hear from some of the best athletes in the world. C'è anche un certo lag tra attenzione e sta partendo finalmente quello che non è un trailer ma è il classico spot dove c'è gente che chiacchiera con lo sfondo scuro. Sono campioni sportivi, attenzione, ma quanto è figo, mamma mia quanto siamo belli nella versione Xbox Live Xbox One, ovviamente sport prettamente per americani chiaro. Vedete quelle immagini che state vedendo, se le state vedendo, questo ovviamente è tutto molto preliminare perché stiamo vedendo praticamente un vabbè questa è sta specie di classico diario di sviluppo. Attenzione, però c'è anche il calcio perché vedete che c'è Messi, signori, e questo non è Messi nella realtà, è Messi nell'Xbox, vedete. E qui c'è la Juve, signori. Beh, purtroppo lo fanno. Poi c'è ovviamente facendo vedere la cosa, sì, la pallacanestro, il basket, bravo, non mi veniva. Vedete, insomma, questi omini reticolati, tanto per far capire quanti poligoni c'hanno. Ma la lotta non è nei poligoni, è nell'amore. È nell'amore, sì. Il giorno che riusciremo a fare qualcosa che ama, noi saremo felici. Ma guarda quanti poligoni sprecati per questa gabbia. Ma hai visto, sì, quanta roba c'è. Quindi già questa prima cosa, diciamo, questa prima previsione era corretta. EA Sports sarà un grande partner di Xbox One. Beh, EA in generale sarà un grande partner di mosaico. Attenzione, Peppe, tu giustamente ancora non vedi niente, eh? Io mi sto assuppando, come Giuseppe ben intenderà, tutte le pubblicità dei depilatori del mondo, perché sul canale di streaming ogni volta che faccio play per cercare di connettermi parte la depilazione. Non so se voi avete il ritorno di questa cosa, no. Ma guarda, se per caso ti connetti e sconnette me, ti vengo ad aprire il culo giù in Sicilia, va bene. Sei arrivato tardi perché adesso aspetti. Beh, lui è arrivato tardi perché giustamente lavorava. Certamente, infatti. No, sto scherzando. Lavorare. Io oggi mi sono preso mezza giornata di deve pagare il server sul quale. Esatto. Direttamente dal Barnett College. direttamente, esatto. L'Ignite ha 10 volte l'animazione, la profondità e dettaglio rispetto alla generazione precedente dei motori di EA Sports. È un po' come dire al 50% più simpatico. No, ma poi, cioè, ma allora, premettendo che non siamo, e questo è chiaro, parlando di un'esclusiva Xbox, questo motore di cui stanno parlando è lo stesso che vedremo pure su PlayStation 4. E fino a qua continuiamo ancora a non aver visto niente di veramente peculiare. È tipo quello che facevano con Call of Duty, cioè la stessa cosa, annunciavano le robe che alla fine arrivavano prima su Xbox. Ah, ecco, vabbè, sì. C'è un modo exclusive mode of the Xbox for FIFA. Cioè c'è una modalità di gioco esclusiva su Xbox. Sti cazzi, anche detto la K palla con rincorsa. Esatto, il palla muretto. Sta per arrivare una demo vera. Sta per arrivare veramente, vediamo qualcosa che si può fare con questa macchina. Oh, facci vedere, va, vediamo. Ad esempio, il lens flare. Il lens flare sicuro, perché lì con Mass Effect, insomma, ne vedremo del lens flare. Ok, hanno spento tutto, sta partendo un video. E se questa è la grafica del nuovo motore di EA, è veramente notevole. Bella riflessione. Ma hai finto! Notevole anche FIFA. Beh, ricordiamo però che, attenzione, sono sempre Tech Demo, ragazzi. Quindi, sì, vabbè. Non sarà mai quello che ti arriverà alla fine. Ma io mi aspetto che come minimo sia così, cavoli. Sì, anche perché sennò l'evoluzione tecnologica dove sta, ragazzi? Cioè, se sprechi tutta la potenza di calcolo per mettere il flash, dai, scusami. Effettivamente la simulazione per mettere in multitasking la prova del cuoco, cioè. Perché Scaletta non sa, ma tutta la prima parte dell'introduzione ci hanno fatto vedere che si può guardare Star Trek e la prova del cuoco. Ho visto con un occhio. Tanti mezzi, ovvero l'iPhone, mi ha fatto vedere qualcosa te lo sei potuto quella vedere. Scena più bella, quella del tuffo nel vuoto per staccare la it's in the game, vabbè, comunque. Nel mentre è finita questa prima tech demo, c'è gente che si sta strappando le mutande sul palco. Sentite? Forse si sente un po' in sottofondo. E entra questo bell'imbusto di Phil Spencer dei Microsoft Studios. Che Alex ci dirà adesso di che cosa parla. È sicuro che Xbox One allargherà la tela per i creatori di la tela per i creatori di giochi. Broaden the canvas, for the storyteller and enhance the experience for the gamer, making games more immersive, more personal and more connected than ever before. As the head of Microsoft Studios, questo si è fatto i pettorali prima di andare sul palco. Guardate come cammina, proprio. Ora basta che non fanno escono con una cazzata tipo l'equivalente di Knack che ha presentato Sony. Bravo. Qualcosa più decente. No, io l'unica cosa che posso dire è che intanto una differenza, e qui vengo a favore di Microsoft per la prima volta in questa serata, è che se non altro tutte le persone che sono salite sul palco fino adesso erano vestite in maniera a differenza di quello che abbiamo visto con la presentazione di Sony PlayStation 4, che veramente stavano con chi è che sta prendendo a cazzotti il proprio computer. Cesare che vuole scappare, vorrebbe andare adesso in un'altra Cesare, non te la prendere con il computer. Sì, sto sfogando le mie frustrazioni sul computer. E questo qua, come diceva Alex, sì, ho sentito Forza Motorsport. Oh, che bello, Forza, attenzione. Forza vista? Ragazzi, mi sa che bella. Altro che Gran Turismo 6, eh? Però c'è troppo blu. A me quando c'è troppo blu. Ma va a cagare. Bella la nebbia volumetrica. Bello. Forza vista, dai. Bello, notevole. Lens flare. Lens piovesse. Tutto piano. Fumo, bello il fumo. Vediamo se le gomme saltano. Interessante, molto bello. Vabbè, comunque considera che comunque il nuovo GT lo stanno facendo per la PlayStation 3, non per la 4. Sì, ma ce l'aspettiamo per la 4. Sì, ma non ce la faranno mai, lo sai, no? Che è tutta nei prossimi 7 anni forse. Sì, sì, uscirà per PlayStation 4 con la grafica da paura. A fine generazione. Non male, sì, la generazione finisce fra 8 mesi, però. E che cos'erano quegli spruzzi alati della pizza? Infatti, che schifo! Infatti, però veramente graficamente non male. Forza Motorsport 5. No, allora, ragazzi, questo è un gioco Xbox. Questo è finalmente un gioco Xbox. Quindi possiamo già esprimere le nostre prime considerazioni, sempre calcolando che sono tech demo accuratamente espresse, insomma, per la essere in full motion, non lo sappiamo. Potrebbe essere, però no, dai, diamogli fiducia, Scaletta. Come hanno fatto per la dimostrazione del Kinect, gli diamo tutta quella fiducia di che fai scansione tavola da surf, butta nel gioco, tanta fiducia. Sasu, tu invece che impressione ci hai avuto? Guarda, è una signora tech demo, ho detto, spero sempre che poi le aspettative vengano, le promesse vengano mantenute, però devo dire che tecnicamente non ho visto, cioè, fa sfigurare a confronto persino se vi ricordate il Drive Club presentato da Sony. Addirittura. Ti stai un po' sbilanciando. Attenzione. Ma non ho capito. Sei convinto? Accendiamo. Questa impressione, no, vabbè, no, è giusto. Vabbè. È vero che è l'ultima cosa che hai visto in ordine cronologico. No? Quindi ma, è chiaro, ma scusate, io alla fine mi sono perso il dettaglio tecnico. Ma è o non è più potente di PS4? Sulla carta, c'ha più transistor. C'è il transistor e dei circuiti anche. E la RAM? La RAM quant'è? 8 giga. Però non è DDR5. Cos'era quella di PS4? Era un po' più lenta. Sì, vabbè, ma stavo a parlare veramente. Cesare invece sta tech demo? Ma sta tech demo, cioè, oddio, abbastanza impressionante, però non sono così sicuro che sia in game. No, in game roba, dai. Lo so, però ragazzi, se non è questa... Remedy, attenzione, Alan Wake 2. No, Alan Wake 2 no. Cioè, con questo hanno lasciato... Poi basta questo è un'esclusiva. Basta solo che dopo questo annunciano pure già che ci siamo Super Mario, dai. E hanno vinto. Perché stanno facendo vedere un filmato? Infatti, no, ragazzi, no, è in game sta roba. È in game, un filmato in game. A chi indovina prima che di cosa stanno parlando, vediamo. Pure brutta bambina. L'assassina, secondo me, era male. No, mamma mia, bambina. Non l'hai inquadrata. È l'orsacchiotto. Eccolo. C'è una nave che si sta per schiantare contro qualcosa. Si è teletrasportata in avanti. Infatti. Però questo è un filmato, dai. No. Quanti poligoni che si muovono. No, ma questo è un filmato, dai. Non lo sappiamo. Però, ragazzi, io quello che posso dire. A me ricorda il porto. Vi ricordate che era un wake che iniziava col porto. Che vuol dire Time is the Fire? Il tempo è il fuoco. Nel quale bruciamo, fra. Sì. Però se fosse anche la nuova... Arrivai a sta ragazzina, però. Tanto di cappello a Remedy. Beh, tecnicamente hanno sempre... Sì, sì. Cioè, pure Alan Wake non è... Nuova IP? Nuova IP? Eccolo, IP. Quantum Break, ragazzi. Quantum Break. Oh, mio Dio. E Quantum suona sempre bene, Quantum è bellissimo. Sì, che cosa ci applaudite? Che no, sì, su questo non possiamo neanche esprimere nessuna considerazione, perché praticamente non abbiamo visto... Diciamoci la verità, non abbiamo visto praticamente niente. Che sia Quantum Break, ne sapete niente? È una nuova IP. È una roba che si rompe. Quanto ma secondo me è un film interattivo comunque. Che culo. Ma cosa, perché ormai la gente applaudisce a prescindere. Vorresti farmi credere che dovrebbe essere la risposta a Beyond e beh, se voi vi ricordate, se voi vi ricordate però, in realtà Alan Wake doveva essere la risposta a Heavy Rain, sì, sì. E poi in realtà il gioco è completamente diverso, cioè nel senso sono due giochi completamente vabbè, diversi. Doveva anche partire come un open world, però poi insomma sì, esatto, sviluppo è diventato ma scusatemi, vediamo quali sono queste 15 esclusive di Xbox One will make your games and TV. 15 ci sarà Halo sicuramente, che anche sti cazzi detto per noi, vabbè sì, però no, è che lo so che la gente lo ama, però basta. Please welcome the head of Xbox Entertainment Studios. Poi ci sarà il nuovo Conkers, l'immagini? e ci sarà anche Dragon Age 4. Amici sessisti, donna sul palco. Attenzione. Ho conosciuto donne più carine. Sì, infatti. Nancy Tellem è della... lavorata nella CBS, la Warner Bros. Adesso è al Xbox Entertainment Studios. E se lo poteva permettere anche un vestito migliore. Notate, vuol dire, questo vuol dire che faranno delle serie televisive apposta per Xbox? Beh, in realtà hanno fatto dei cortometraggi apposta per PlayStation 3, quindi voglio dire a quel punto. Ma io qualcosa del genere l'avevo sentito. Alex. Xbox is expanding the canvas. And Xbox is expanding the canvas. Questo sarà proprio Xbox Entertainment Studios. È quello che dicevo. Devo capire se questa roba è interattiva oppure no. Cambia tutto. Io mi ricordo che c'era un'IP che era stata comprata da Microsoft. Che cos'era? Scala, alzati il microfono. No, ero distante. Ah, mi sentite bene adesso? Ora sento pure troppo. Ma sì, ti sentiamo benissimo. Until now, the television viewing experience has been a one-way street for the viewer. Cioè, un monodirezionale. A meno che non fanno qualcosa tipo come Defiance, che quell'MMO ambientato a Parigi. Ah, ecco cosa avevo sentito. Esatto. Scusate, non era Heroes che era stato ripreso e comprato per la esatto. No, paura sta cosa. Comunque Justin Rosalia ha una domanda per Scaletta, ma fa anche il caffè? Gli abbiamo già risposto come trasmissione. Xbox Antani, chi gli ha risposto? Io gli ho risposto. Fa tutto, sì, fa anche tutto. Per due. Fa anche i pompieri. Sports, live events and digital shorts. Sports, live event e digital shorts su Twitter, vero? Su Twitter, ma non lo chiedi a te direttamente, ti ho voluto coinvolgere. Lo sapevo. Mi raccomando a tutti i nostri teleascoltatori, twittate con l'hashtag Xbox Antani. Se volete twittare con cose più serie, andate su altri podcast. Noi non capiamo un cazzo e ne siamo anche orgogliosi, a parte Saso e a parte Cesare e a parte Scaletta. Tanto sopra questa Cristiana, che ovviamente non abbiamo capito che cosa voleva presentarci. Adesso arriva una più giovane, più carina. Thank you, Nancy. Insomma, for me, è più carina dell'altra, Bonnie Ross. È arrivata Bonnie Ross, ragazzi. È magra almeno, dai. che sessismo, mi faccio schifo da solo. Dice che ci connettiamo tutto l'universo. Sì, sì. E c'è una specie di vulcano che in realtà è casa di Scaletta. Sembra, avete presente Star Trek, il primo film? Dove c'è Viger? Sì. Ecco, quello sembra. Lo dico per i teleascoltatori che non ci ascoltano. Guardate che in basso a destra c'era un logo di Elo, dei monitor infatti, in basso a destra, dei megaschermi. Quindi non vorrei che magari ci fosse centrarsi in qualche maniera. Secondo me fanno la serie televisiva tutta dedicata su Xbox Live, che ovviamente scaricheremo dal torrent non comprando più. No, siccome è diventato anche per il porno, sarà Halo il maialo. Live action Halo Television Series. Questo andiamo, e notate, ecco, Steven Spielberg, no, Peter Jackson is involved. Mi dovete dare per questa Peter Jackson involved. Peter Jackson, sì, che già doveva girare il film di Halo e poi non l'ha più fatto. Allora gli hanno detto: guarda, risparmia i soldi e fai questa serie televisiva. Steven Spielberg, oddio, no! No, no, basta, no, ragazzi, basta. No. Cioè, quest'uomo lo dovete fermare. Vedi che sei vecchio, Steven Spielberg, sei vecchio, basta. And I even started playing Pong in 1974. Cosa sta dicendo, Alex? Sta giocando a Pong nel 74. Nel 74. Giocando a Pong. È rimasto lì poi. Esatto. E poi c'è stato Nettino. Ecco, certo. Così, e poi Indiana Jones. No, no, Indiana Jones non lo nominare, che già c'ho. No. Abbiamo dei conti in sospeso, che nel caro vecchio Steven. Ci devi un biglietto del cinema almeno. Esatto. Anzi, ci devi la nostra giovinezza. Ci devi i nostri sogni. Perché è quello che loro dimenticano, che alla fine questi film diventano patrimonio dell'umanità. Halo. E comunque c'è anche, abbiamo capito che c'è anche Steven Spielberg dietro questa fantastica serie di Halo, quindi sarà una cagata immonda. Scaricheremo ovviamente anche dal torrent solo per spregio. Aspettative a palla, però. Sì, sì, beh, dopo The Walking, no, The Walking Dead, dopo The Fallen Skies, cioè veramente Terranova, insomma, lui ha dato prova negli ultimi anni di essere freschissimo nelle sue idee. Ma soprattutto è molto orgoglioso. Eh? È molto orgoglioso di noi. E poi c'è grande orgoglio, sì, e Dio ci salverà tutti. No, devi dire giusto, Yahweh ci salverà tutti. E bandiere americane. No, però lui, pure da questo punto di vista, capito? Non, vabbè, è un discorso che forse non è il caso entrarci in questo momento. Comunque, e comunque dallo store Microsoft potete scaricare la giacchetta della tizia come per il vostro avatar, che è bellissima. Infatti, sì, infatti. Comunque, Game Junking. Comunque, non so se appunto avete visto finora, è stato. NFL 70% serie, 70% televisione, serie TV e 30% giochi. Mi ricordo il CDI sta cosa, non so perché. Sì, però questo è in tempo reale, cioè lo guardi in streaming sta roba, non è. Sì. Vabbè, certo, sono passati 20 anni. E comunque la Xbox One è praticamente un Apple TV, che in più ci puoi giocare, ma come cosa aggiuntiva, cioè non è focalizzata. Sì, infatti non l'avevo ancora vista. Ma non è manco brutta, non è. Detto, sembra un misto, un incrocio tra un videoregistratore Betamax e un giradischi. È un po' retro, è un videoregistratore Betamax. In realtà loro hanno comprato tutti i videoregistratori Betamax del pianeta e li hanno assemblati. È quel grigio, l'abbinamento grigio-nero, che non mi convince. No, è solo riflesso, non è grigio. In realtà sul video di presentazione era più bella, Sai, perché poi gli americani hanno questa fissa delle statistiche. Europei. Allora, posso dirvi una cosa? Qui devo spezzare un'arancia a favore di questa cosa. Io ho sempre sognato questa cosa di guardarmi la TV, se effettivamente funzionerà su canali streaming live, e poi accedere a robe varie, statistiche Twitter in una finestrina di attorno. Sì, ma perché tu sei geek nell'animo, sì, cioè, in realtà sei americanofilo, capito? Queste cioè, cose qua scopo? Ha battuto 623 home run tua sorella, cazzo, 47 pollici, qualcosa gliela devi schiaffare solo. Ma fanculo, se lo guardi in tempo reale tutto insieme. Ma perché se mi lasci l'immagine a tutto schermo fa così schifo, io pesce. Però vabbè, io capisco anche, nel senso, però è veramente una cosa tipicamente americana. Se voi andate a vedere le statistiche dei vedendo una partita di football, veramente anche la più stupidaggine, anche il giocatore più pippa, comunque il suo riquadro statistico. Comunque vabbè, c'è questa accoppiata Xbox con NFL. Comunque io non ho capito perché per presentarti Halo hanno dovuto far salire una persona che sembra tua zia. Ma questo è una persona brutta. Quest'uomo ha gli occhi di un manga, cioè sembra il cucciolo di. Sembra il gatto con gli stivali quando fa gli occhioni. Ma chi è? Questo sta lì perché lui è un tenerone. Guarda, e poi fa le espressioni compassionevoli. Ha pietà di noi un po'. Oppure abbiate pietà di me, che è quello del gatto con gli stivali. No, lui invece è al contrario. Voi che applaudite a prescindere qualsiasi cosa che vi mostriamo, io ho compassione di voi. Ma soprattutto ha un bellissimo doppio microfono, che se ne rompe uno esatto. Questo sempre sono microfoni Windows, quindi sono stereo, no. Lui prova a fare l'effetto Doppler. Scaletta, guardati qualsiasi Keynote Apple, anche loro ne hanno due, dai, cioè è lo standard, deve avere sempre tutto ridondante. Che sono americani, capito? Cioè spendi 40 miliardi per sviluppare una roba del genere, metti quei 100 euro in più per noleggiare un secondo microfono, dai. Ma cioè, hanno già fatto l'approfondimento sul controller o non l'hanno filato di sì? No, l'hanno fatto vedere. Mi dicono che basta vedere c'ha tasti nuovi, i due tasti, sì, i due tasti al posto di start, diciamo, e back c'ha due nuovi tasti, uno dovrebbe essere equivalente del tasto share. Tutti i lati sono buttati, esatto. Ok ragazzi, per tutti, ma sarà uno sticker, l'hanno appiccicato con lo scotch per non fare cattiva figura. Signori, interrompiamo un attimo il live perché sta andando un pochettino a scatti, dato tutto il troppo carico, e insomma rimanete collegati sullo stesso link, ok? Un secondo. Voglio non mi devo staccare dal no, stiamo solo facendo io. Adesso che non siamo più live possiamo dire insulti e improperi. Ma sto registrando comunque ugualmente. Bravo, bravo. Io non sto registrando. No, manco niente, fa niente. No, io avevo fatto domanda specifica, mi è stato detto di no. Però guarda, ora se non fanno quelle 15 esclusive, almeno qualcosa lo fanno usare. Ragazzi, io veramente, boh, non lo so. Sarà che saranno arrivato tardi, sono un po'... Io ho la presentazione che questi si sono telefonati. Bill Gates ha telefonato a Sony, ha detto, signor Sony, tu che, dove vuoi andare? Io vado a destra, e tu, ma io vado un po' più a sinistra, così almeno non ci scontriamo proprio. Esatto. Please welcome. Ha detto qualcosa di interessante che tutti battono. No, no, ha detto viva la figa, qualcosa del genere. Attenzione, sta partendo qualcosa. Eric Iceberg. No, l'Activision, abbiamo l'Activision, dai. Quindi il prossimo call, oh, eccolo qua. Ma dovrebbe esserci anche Battlefield 4, mi pare. Infatti. Sì, ma cioè, gli stessi amici che abbiamo visto da Sony. Comunque. Ma siamo in diretta? Tu che i FPS li giochi tutti, Peppe, quell'icona lì del teschio cos'è? Cos'è quell'icona del teschio? C'ho qualche secondo di... qualche minuto di ritardo. So that our developers could create the new Call of Duty for the next generation, and that's exactly what we're going to deliver with Call of Duty Ghosts. Intanto ricordiamo che con noi c'è anche Cesare. Ricordiamolo soprattutto a Cesare. Eccolo! Call of Duty, che bello, ci mancava. Vabbè, ci voleva comunque, dai. And make no mistake, we're going to do it again with Call of Duty Ghosts for the next gen. Hai visto? Era Ghost. Vediamo se fa il mazzo a chi. Era Ghost, come dicevo io, dai. Ghosts. Capturing the creative process as the vision for this game is unfolding. And we wanted you to be the first to go behind the scenes and take a look at what they've been up to. Ah, look. Scusate, ero distratto. Ma siamo in diretta? Sì, sì. Okay. Trailer, dai. No, sempre gente che chiacchiera, vedi? Diciamo che Sony su sta cosa è andata un po' più dritta. Adesso Sony soprattutto ha fatto vedere il gioco. Occhio vitreo, come sempre. È brutto, chi è? C'è della gente che clicca a casaccio. New story. C'è una nuova storia che ci dà, perché sappiamo che in The Call of Duty le storie sono la cosa più bello. Addirittura un premio Oscar per le storie in questa cosa. Per le sceneggiature. No, per le storie. Per i capelli. Emotional reality, you know, they wanted these characters. Questo è quello che fa affari di famiglia. Il classico demo col viso preso da vicino e niente sullo sfondo. Possiamo notare la vera potenza di calcolo. E certo, vedi le rughe. You are actually the underdog fighting back against these. Ah, vedi, ci sono i soldati tutti colorati. Ghosts are a super elite fighting force, to like the Spartans all the way through SEAL Team 6. They've adopted every technique. Ha veramente dei bellissimi capelli. Sì, sì, quello è un bel uomo. Ci avrai il cane. Anche qui. Cane che ti lecca. Poi c'è anche e poi gli zombie. Il cane militare, un'idea originalissima. C'è anche un bambino, dopo, lo sai, sì. Che volava? No, povero cane, l'hanno bragato tutto per fare il motion capture. Ora bestia. Next gen engine. E speriamo che abbiano finito di pagare le licenze per le armi reali, finalmente. Sì, però, cioè, ragazzi, stanno a far vedere. Cioè... Io volevo vedere. Ecco, questo volevo. No. Troppi pochi secondi. Finora solo Forza Motorsport. Se PS4 era noiosa, questa qua, cioè, è tremenda. È che secondo me sono arrivati a un punto di concettualizzazione che veramente non sanno più come andare a fare queste presentazioni, non sanno proprio più che dire. Sì, ma pure facendole a caso le fai meglio di così, Diciamo che di norma, e questo in realtà non giustifica il fatto, appunto non giustifica il fatto che i nostri download non sono gli stessi di mai. it allows you to get somewhere quickly, get out of the line of fire, and at the same time do it. Ripeti. Cool. Dare 20 Microsoft ha scaricato il nostro podcast. Cioè, andate all'evento Microsoft e si ascoltate la radiolina, bellissimo. Però i pesci sono fatti bene, dai. E anche qui vedi, cioè, nel senso, vabbè, è vero pure che stiamo vedendo in streaming in una qualità piuttosto relativa, però insomma. Vabbè, ma Lightning. C'è il multiplayer comunque, sappiatelo, così eventualmente ci dovreste aver avuto dei dubbi nella vostra vita. Immagino che scaletta tra il gioco che comprerà. Sì, sì, sì, anzi, vi volevo proprio chiedere, ma hanno già annunciato la politica di multiplayer, abbonamenti e robe varie? Multiplayer è tutto spiano. No, però puoi guardare il prezzo giusto. No, non ci sono focalizzati. Perché ci sono dei tronchi che rotolano che abbiamo già visto in Oblivion, tra l'altro. Al passo con i tempi. Umberto Primiceri in chat. Ciao. Salutiamolo. Salutiamo anche Stefano Paganini che dice Pizzi fa il bravo. Io sono ecco, tra l'altro qualcuno ha postato. Aspettate. C'è una P. Ah sì, sì, c'è un. Twitter ha postato una foto che quindi andate in 60 frames a second. Simone non ti si sente Xbox per un cazzo Antani, e vedrete Vincenzo Nardelli che ha postato qui. Xbox Antani ve lo rilinco infatti Justin me, Tech Xbox Antani. / Xbox Next. This will be no, lui, la, il DLC di questo coso Xbox Antani in esclusiva temporale per Xbox One, esclusiva come sempre temporale sì, perché come abbiamo detto oramai non conviene praticamente più a nessuno. Sì, perché se ti dicono mi fa un'esclusiva totale, la risposta diplomatica è mi tiro giù la patta e mi succhi il cazzo. No? No, ma cioè, il problema è che non c'è, nel senso che gli devi dare i soldi e il doppio di quello che incassa soltanto con te. Cioè, nel senso, cioè poi Call of Duty, ragazzi, cioè, stiamo scherzando. Quanti copie vende Sasso, tu che sei... In generale, sì. Vagonate. Tipo più superiori ai 10-15 milioni di copie, no? Sbaglio. Non sai che gliene frega. Le palpebre per sbatterle, no? Mettetevi questo. This next generation head is ma qui ci vede la stessa demo della faccia del tizio che non è tanto impressionante più di quanto quello che vedremo in Beyond Due Anime, ricordiamo. Beyond Due Anime, sì, così. No, è il nome ufficiale. Ricordiamo il nome ufficiale di Sony, sì, esatto. La prima parte in inglese e poi l'altra l'hanno. Beh, ha senso, però, ha senso. Sì, al di là. Non so se vi siete letti appunto quello che vi ho postato, il tweet ufficiale dell'account fake di Peter Molyneux che ha detto: lascio ufficialmente il gaming, adesso sto lavorando su una serie TV di Magic Card. Vi disco i peli uno per uno, guardate sulle braccia. Ecco, è scaletta che deve vedere cose. Ma non serve a niente il pelo. L'unico pelo che vogliamo vedere è un altro. C'ha le incrostazioni sotto le unghie. Guarda che bello. Lo schifo. E piove addirittura. Pure. Quello piove nei videogiochi, piove da almeno un paio di generazioni. Non pensavamo da un paio di anni. Non ci sono più le mezze stagioni anche nei videogiochi. Applausi. Ok. You've seen the vision for the game. Secondo voi dopo Call of Duty cosa qual è altro brand manca? The ideas that we're bringing to Call of Duty Ghosts inside campaign, Battlefield, no. New story, new narrative and inside multiplayer dynamic maps, character customization and there are a lot more new ideas nello stesso from new co-op ideas to seamless second screen integration to voice commands via Kinect. Questo punto io mi aspettavo prima che non sapevo cosa pure di Battlefield 4. The gameplay you're about to see is running in engine on the new Xbox hardware. This is the new generation. Intanto Paganini si sta facendo bellissimo, ci ha fatto bellissimo. This is the world premiere of Call of Duty. Niente Paganini, ti voglio bene Paganini. Che stanno ora? Sì. Luci che cadono dallo spazio. Un cane, le bandiere americane strappate. Oddio, non sia mai! Blue Sky. Non lo so. Sembra che sia stata una guerra tra mondi. Mi ricorda un po' Oblivion il film. Siamo sempre su Call of Duty, perché io mi sono allontanato un attimo. Sì, un'immagine, il primo fotogramma, quello col soldato, era già, l'avevamo già fatto vedere prima. Sì, è il trailer. We've always had the power. Not anymore. All we have is each other. Il blurge, la sfocatura, la sfocatura di campo è buona, è bella. La profondità di campo è bella. Sì, però io ribadisco, stiamo vedendo quelli che saranno i motori grafici della prossima generazione. Ma questo valeva anche per le presentazioni del PlayStation 4. Ma sì, all'inizio è ovvio che sia così, cioè ci vuole un po' per capire. Scusate, ma allora, visto che c'è il cane, col Kinect potrei finalmente dire seduto al cane. E con il nuovo Call of Duty potrei dare i comandi: seduto, dammi zampa. Può essere. Però lo scrittore di Traffic è per quello che ha vinto l'Oscar, non per le storie. Qui no, c'è Batman, sì, in verticale. Quello l'avevamo capito, però dico, puntano per la prima volta su una sceneggiatura. Biggio ci chiede informazioni sulle console, però mi sa che non è neanche collegato. E allora che è Biggio, che non rompi i coglioni. Ok, dicono di scarica di dietrologia videoludica quando uscirà sul film. Attenzione, è caduto. Nuota, ci sono esplosioni, gente che cade. Beh, comunque visivamente stiamo arrivando veramente a cose molto molto molto impressionanti, bisogna dire, a livello di impatto. Ma a voi piace questo Call of Duty così? Cioè, a me non mi interessa Call of Duty in generale, ma questo no, intendo graficamente. Sembra un po' patinato, però cioè a me fa un po', non mi piace, cioè così a pelle, non vi so dire il motivo. No, devi strinzegare, se esprimi un giudizio lo devi analizzare, però non puoi essere un redattore di dietrologia. Sono troppo criptico, ma dai, è vero comunque, cioè nel senso lo vedo un po'. Se vedessi questo video, e non è che adesso seguo molto Call of Duty come serie, potrei dire in alcuni scorci che sembra un Call of Duty di adesso. Scusate, ma la presentazione di Xbox One è finita? Infatti. No! Così. No. Come no? Non ci posso. Ci deve essere un errore. No, se io dico no, nel senso. No, spero di no, perché veramente. Cioè, c'è stato è apparso un counter a 19 giorni. Sì, esatto, basta, è finita. Oh, no, davvero, cioè, that's it, no long goodbyes. No. Cioè, hanno fatto davvero. No, sarà un errore. No, that's it. Come Nintendo ha fatto venerdì scorso, dai. Cioè nel senso che noi rimaniamo. Ti fanno i preliminari nel momento che del coito ti interrompono. Oppure noi dobbiamo rimanere qua a guardare tutti i titoli di coda per 19 giorni. Come esatto. Interrotti. Vabbè, comunque no. Tra 19 giorni non esce. Questo non è che cioè veramente sarebbe una follia, una cosa del genere, cioè. No, ma davvero, vabbè, è chiaro. Ma neanche adesso, dire adesso ciao tutto, tutto il mondo si sta interrogando su che cosa significa questi 19 giorni e tutti daremo ovviamente credito a questa cosa alimentando l'hype e facendogli automaticamente pubblicità in diretta. Il fatto sta che questo modo in cui ci ha salutato senza neanche dirci ciao con queste ultime immagini di Call of Duty, che sarà sicuramente una sceneggiatura fantastica da premio Oscar, e dopo aver visto Steven Spielberg che ci farà una serie televisiva solo ed esclusivamente per Xbox, insomma ragazzi abbiamo capito che, e qui andiamo a fare un giro di opinioni generali, questa Xbox non affronta frontalmente PlayStation 4. Questo no, è, no. È un più che Xbox One direi la nuova Microsoft TV praticamente. Esatto. Quindi allora iniziamo scaletta: Saso, Cesare, Alex. Ma da quello che ho visto, infatti, forte focalizzazione sui servizi televisivi, che sarebbero quali? Scusate, avere lo streaming di cosa? Di alcuni C'è anche l'interfaccia vocale, cambia canale, gira. Ah, perché prima invece poi, non. Sì, e poi diciamo al lato, per esempio, per le partite, eccetera, tutte quelle. Ma per il giocatore cosa c'è? Perché io non l'ho capito. Abbiamo una grafica pompata. Antonino dice che chiede, ma che è un canile? Qual è l'esperienza aggiuntiva? E soprattutto con quali carte sperano di poter fermare o bloccare o rallentare l'avanzata di PlayStation 4? Perché non l'ho capito. Cioè, il plus qual è? Contare sulla base già degli affezionati sulla base Xbox? E quelle due, tre proprio una manciata di esclusive che hanno mostrato ora. No. Che non sono esclusive, a parte Forza Motorsport, non sono esclusive. Allora io speravo, anzi, per me c'è stato a prendere il culo. Onestamente speravo che loro uscissero fuori con un, appunto come diceva prima del collegamento Peppe, mi pare di aver sentito, che lanciassero un anti PlayStation Plus. Non c'è stato, la vedo veramente dura, perché se adesso Sony se ne esce fuori con PlayStation Plus esteso anche a PS4, abbiamo un titolo al mese che i nostri utenti possono giocare, e allora lì veramente, secondo me è finito. Ma io, guarda, questa cosa dei servizi che comunque loro possono integrare e presentare piano piano, fra qualche giorno, perché loro comunque ci rimandano a fra qualche giorno. Ma la guerra è ora, sì. Ok, sì, esatto. Però il problema è che secondo me non sono più la stessa. Cioè, ecco, e ritorno alla domanda che abbiamo fatto nell'intro, prima che iniziasse la presentazione, quando tu, Scaletta, ancora non c'eri. Microsoft ha la sensazione che, al di là dell'effetto sorpresa di Xbox 360, in questa nuova generazione il fattore esperienza, quindi a livello di progettazione, di costruzione di console e quindi di concettualizzazione di Sony, possa avere la meglio rispetto al proprio prodotto? Secondo me a questo punto sì, perché loro comunque ti hanno fatto una console potente per videogiochi o con la grafica stracazzica, ma che comunque non ha puntato su quello. Cioè, nel senso che comunque la netta differenza fra le due presentazioni è che una ha presentato videogiochi, l'altra ha presentato un po' di tutto, ma se n'è andata senza salutare. Sony giustamente ha puntato, mi sembra che il concetto fosse chiaro, ha puntato sul fatto che la console è facile da programmare, e onestamente se avrà lo stesso peso che ha avuto nella generazione Xbox PS3, se avrà lo stesso peso, e allora ci sarà un certo movimento di sviluppatori che prediligeranno lo sviluppo su PS4. Questo no, scusate la risata. Ti fa ridere, Peppe? No, stavo vedendo un tweet di un amico che dice: io ho già un Xbox a casa, e praticamente ha postato una foto di un registratore VHS con sopra una PlayStation 3. Ah, ok. Effettivamente. Giuseppe, tu invece la tua... Io sono rimasto abbastanza deluso, perché avrei preferito, diciamo, appunto, che facesse a botte con Sony, e quindi si focalizzasse pure molto più sui videogiochi che appunto sugli altri servizi, per quanto sì, doveva mostrarli, ma non in questa larga parte. L'unica cosa effettivamente che, diciamo, sono rimasto, detto così, leggermente, ma proprio veramente un tantino soddisfatto, è che quantomeno hanno fatto vedere la forma della console, che però poi alla fine... Ma io... è un decoder anni 90. Peppe, sì? Peppe, io non continuo a non capire, quali sono questi servizi? Servizi sono che praticamente... il prezzo è giusto. Eh? Ok, il prezzo è giusto. Sì, c'è l'abbonamento già incluso. La corrida. Puoi alternare tra queste cose, tra queste trasmissioni e i film, fondamentalmente. Ma la cosa più bella, e veramente la cosa che mi ha emozionato veramente tanto, è in pop-up i lens flare di Star Trek con, ok, il prezzo giusto in background. Cioè è qualcosa che, per il quale vale la pena. Quanto costerà questa console? Non l'hanno detto. No, non è prezzo e neanche data, se per questo. Okay. Però questo magari, detto, è il prossimo iDream, magari questo. Quindi, sì, comunque anche sulla scritta della schermata finale rimandavano comunque alle 3 2013, quindi sicuramente poi aggiungeranno anche altro. Cesare? Ma c'è un po' deludente questa presentazione. Ma secondo voi... Scusate, cioè, deludendo. Anche esatto, ci ha deluso a questo punto. Cioè, vi piace pure questo nome, a parte gli scherzi? Ora Xbox pure One, beh, vuole essere evocativa in qualche maniera, quello ci può anche stare, sì, voglio dire. Sì, il nome probabilmente è il minore dei problemi, cioè, sì. Vedendo... ma scusate, non notate la doppia analogia con Nintendo e Wii U? Allora, guardatela da questo punto di vista. Da una parte, quando annuncia il nome del successore del Wii, Nintendo dice: abbiamo puntato su te, questo è il Wii U. E Microsoft dall'altra parte, il concetto di unità, tutto riunito in un'unica macchina. E non pensate, altro lato dell'analogia, che ci possa essere un po' di confusione, come lo è per Nintendo in questo momento. Sì. Cioè, non è una Xbox One. Sì. E cos'è? Un'estensione? Una console? Oppure non ci può essere, perché è la Xbox che fa tutto. No, cioè, sì, ma non ci può essere perché hanno mostrato sin dall'inizio l'hardware. Hanno fatto vedere la console e non solo il pad, mentre invece ti ricordi ha sbagliato sin dall'inizio. Ma a livello di marketing, come fa a fare percepire la differenza? Anche al nonno scemo che deve comprare il regalo al nipote a Natale, mi dia una Xbox. No, aspetta, stop. Peppe, l'utente Xbox in generale è diverso dall'utente Wii. Siamo d'accordo. Quindi è chiaro che l'utente Wii è più facile a sbagliarsi tra Wii e Wii U come concezione di estensione della Wii. Sì, ma se tu vuoi fare veramente un passo generazionale anche a livello di comunicazione, anche fra gli hardcore, allora devi dare una rottura. Ma no, loro secondo me non ci vanno. Cioè... E io non vedo questa rottura né nei servizi né nel. Poi scusate, neanche nel nome. Secondo me ci hanno preso un po' per culo. C'è questa sensazione qua. Sì, sono d'accordo. Un'altra cosa che mi è dispiaciuto, mentre comunque sul palco Sony aveva per esempio fatto salire anche alcuni. Vabbè. Chiamiamoli programmatori, sviluppatori indipendenti, qua Microsoft non ne ha completamente fatto menzione, non se li è cagati di striscio proprio. Mm-hmm. Questo diciamo anche, cioè, un po' mi dispiace, ha fatto vedere solo qualche titolo tripla e niente di più. Vabbè, allora stavamo sentendo, scusa, cioè, Giuseppe, non è che se no mi perdo un attimo pure io il segno. Stavamo finendo di sentire Cesare e poi Alex, e poi a questo punto io penso che veramente... No, magna. Deve essere che si è fatta una certa. No, ma non è per quello, è proprio che non c'è poco di cui parlare. C'è l'abbasanza, capisci? Cioè, nel senso, cioè, diludendo. Cioè, se io penso a questa console così, hanno perso in parte, cioè, una spremuta di sangue. Così, poi sì. Secondo me non è così, cioè, nel senso che secondo me c'è dell'altro. E che in qualche maniera se la giocheranno piano piano. È che la sensazione che ci avevamo noi era quella che ci aveva Sasso all'inizio, che Microsoft l'ha presentata dopo, perché Sony questa volta gli ha battuto il tempo, però la fanno uscire prima. Ok, questa era la sensazione. Invece vedendola così, è che cazzo la fate uscire a fare? No, nel senso che sicuramente è un elettrodomestico che va in un certo tipo di discorso, un certo tipo di target, però... Vabbè dai, Cesare e Alex, poi così qui chiudiamo. Beh, ritornando un minimo al discorso di prima, di cui si parlava del nome, eccetera, secondo me PlayStation 4 alla fine, vabbè, chi se ne frega di quello che pensano i giapponesi del 4 uguale morte, vabbè, ma dà l'idea di una novità. Invece secondo me Xbox One rischia di non darla, perché... sono d'accordo. Secondo me la persona così, l'acquirente medio non capisce che è la nuova Xbox, cioè non vede perché deve comprare questa Xbox One, che magari non è nemmeno l'ultima, è un accessorio, oppure non lo so, è quella che è uscita prima che non ha mai sentito, cose del genere, cioè... Vi ricordate quando tutti i film, è uscito Rambo 2, tutti i film hanno cominciato a mettere il numero 2, ci fu tutta quella serie di film, La Vendetta, è forse un po' lo stesso concetto a livello di immagine e di nome. Ma io però probabilmente per il mercato americano può, allora innanzitutto non rappresenta una rivoluzione. E questo ok, però magari per un utente americano che dice ok, mi dà tutta una serie di servizi che qui sono stati presentati sommariamente e che sappiamo che in Italia se ne arriverà un quinto, esatto, un quinto di quei servizi sarà già tanto, potrebbe anche essere interessante. Però io c'ho Sky Go, c'ho magari un Mac Mini attaccato alla televisione, c'ho il Blu-ray perché c'ho la PlayStation 3 e ti dico sai che c'è, ma sti cazzi. Cioè, se dovete un film, me lo vedo. Se dovete un programma televisivo, me lo vedo. Cioè, non c'è niente che questa cosa mi dà in assoluto che mi impone o mi chiede di comprarla a me. Scusa Simone, alla luce, guardando solo ora, solo confrontando le televisione, vedi, non stiamo manco a parlare dei giochi. le due comunque presenti, i due enti, che appunto questo qua è quello di PlayStation di qualche mese fa. Cioè, tu quale dei due alla fine ti ha convinto a comprare una console? Beh, io, è vero che io parto prevenuto per certi versi, perché sono sicuramente più un sonaro che un Xboxaro, ma sono anche una persona che di fronte alla meraviglia mi stupisco, ok? E l'Xbox non mi ha stupito. Esatto. E quindi se io dovessi fare una scelta ad oggi, esatto, quindi ad oggi, non è sparito, te ribadisco, do ancora la fede, cioè buona fede a Microsoft di presentarmi qualcosa fra un po'. Infatti non è questione, no, comunque non è questione di prevenzione, è proprio secondo me chiunque, basando però su queste due, ma se vuoi andare a giocare prendi una, per me è una spremuta di sangue così, cioè. Esatto. Alex, allora prima di tutto mi ha dato fastidio che se ne sono andati senza neanche dire ciao. Sì. Che cazzo è? Non sto mangiando. Allora, dal mio punto di vista, io magari di videogiochi non ci capisco, ma qualcuno dovrebbe andare a seguirsi Keynote Apple. Punto. Cioè, sì. Lì sono capaci di farti applaudire anche se presentano aria fritta. Qui magari c'era della roba da vedere, però non ho l'effetto hype, l'effetto minchia che figata, io non ce l'ho avuto. Probabilmente lo sarà una gran cosa, ma dal mio punto di vista è come per la PlayStation 4, è un non me ne frega niente di comprarla o di regalarla a mio fratello, che è il gamer, l'hardcore gamer di famiglia. Tanta televisione frega un cazzo, va bene che vuoi fare il media hub e va bene eccetera eccetera eccetera eccetera, ma dovresti darmi qualcosa di molto di più rispetto a quello che mi stai dando. Cioè, a me delle classifiche dell'NFL frega un cazzo, persino mi frega un cazzo della classifica di Serie A se sto guardando la partita, cioè la voglio vedere dallo schermo intero e uso il second screen, cioè l'iPad, l'iPhone, l'iminchia, qualsiasi cosa, lo smartphone, qualsiasi cosa, per vedere lo sminchias, come cosa dice Scaletta. Cioè, questa così dico? Ogni tanto sì. Lo sminchiatauro anche. Lo sminchiatauro. La commissione di media, il transmedia, fatto in questo modo, secondo me non ha nessun senso. Cioè, a me vedere le trasmissioni in cui sono i tweet sotto che appaiono è un po' come vedere le trasmissioni di una volta, c'erano gli sms. Ciao, Gigi, mi manchi tanto. Fede, sei troppo carina. Ti distraggono. Sì, nel senso, hanno la stessa valenza dal mio punto di vista dei messaggini quando c'era le giostre, che c'era il tipo lì delle giostre che agli autoscontri lanciava i messaggi. Agli automobilini ai guidatori dell'automobilina numero 15 siete troppo carini. Cioè, se queste cose non ha nessun valore, sì, sta roba qua. Addirittura io preferisco giocare a FIFA piuttosto che vedermi una partita, perché sono meno scritte a schermo. Cioè, quindi è problema. Ah, poi un'altra cosa, ma alla fine, per come l'hanno presentato, ma voi avete alla fine, cioè, capisce se secondo voi da questo keynote se la Xbox sarà sempre online o meno, perché loro hanno ti hanno sbandierato davanti questo cloud eccetera, però non ti hanno detto. Ah, tra l'altro non hanno parlato per niente. Esatto. Cioè, ma allora, di questo, sì, esatto, vai, Alex. Ma secondo me già adesso le console sono comunque degli always on. Cioè, tu che console hai? Stai chiedendo a me? A te, sì. Tutte ce l'hanno, esatto. E vuoi dirmi, che non hanno il cavo Ethernet o il wifi sempre on? Sì, il cavo Ethernet oppure automaticamente, per esempio, la wifi nel Wii U, esatto, la wifi sempre, esatto, per cui comunque già adesso di riffo di Rafa sono console sempre on. Sì. Non l'hanno detto, boh, ma era non sarai sottinteso, esatto. Ma magari, ripeto, per la questione del licensing, cioè faranno una cosa simile a quella che ha fatto Adobe, come dicevo. Cioè, magari che non devi per forza essere connesso, ma ogni tanto se sei connesso va bene. Cioè, se non rimani connesso, che ne so, per più di una settimana o più di un mese, dice Oppure come l'attivazione su Steam, no? Una volta che l'hai attivato. Che poi voglio dire, se claccheranno anche quello, lo sa Adobe. Non so se state confrontando i stock del Nasdaq di Microsoft e di Sony, ma praticamente quello di Sony ha avuto un'impennata e quello di Microsoft invece proprio no, io sono curioso domani veramente di leggere un po' tutta la stampa, ma veramente anche già stanotte me ne metterò, allora, a vedere. Ma secondo me sarà un massacro. Cioè, se questa è una strategia, in qualche maniera è una strategia che non è facile percepire e che comunque a livello di impatto non ti può lasciare bene. Ma poi scusate, abbiamo due richieste dagli ascoltatori. Antonino Nicita dice è una delusione, è mancato l'effetto wow. Esatto. Mentre Vincenzo Nardelli, una cosa interessante, i prezzi secondo noi? Ma si vociferava come quest'ultimo rumors che è sempre intorno ai 399, quindi 400 sì, euro. Sì. È una cosa però, ma poi una cosa che mi ha dato proprio fastidio, sia in questa, scusate, presentazione che in quella di Sony, ma perché, vabbè, quella di Sony ovviamente era velata per il discorso che non si è visto effettivamente la console, neanche con l'ultimo video si è capito bene, però perché non c'è una da qualche altra parte qualcuno che si possa avvicinare a un Jonathan Ive che ti faccia un design bello della console? Perché devono essere sempre scatoloni? Perché Jonathan Ive ce l'ha solo uno. Ce n'è no, solo no, uno. Vabbè, non per questo. Dico, ma qualcuno è comunque. Beh, dice, l'ultima console bella è stata una sola, cioè, nel senso, la PlayStation 2 per me comunque era un oggetto ma che nella sua completezza. Ma perché dobbiamo avere sempre questo trend scatole nere, della forma così cubica, eccetera? Perché non tu dici manca il coraggio di fare un design veramente nuovo. Esatto. Ma sì, ma cioè, scusate, a cosa servirebbe un design nuovo? Non è un oggetto portatile che tieni in mano. Ma cioè, è già comunque un plus valore, comunque. Ma secondo me no. Per l'effetto anche figata, secondo me sì. Boh, cioè, io credo di no, perché tendenzialmente una console la tieni magari lontano da te quando giochi sul divano. Scusate, c'è notizia ovviamente di The Verge che conferma: Xbox One non sarà retrocompatibile con i giochi della 360. Ah. The Verge ha confermato. Cioè, poi immotivatamente. Quindi se la giocano ad armi pari da questo punto di vista. No, perché Sony invece dicono che comunque il clouding sarà retrocompatibile. Però bisogna vedere se c'è. Vabbè, però ragazzi, Simone, bisogna vedere comunque se è vero quel rumors che diceva pure, a questo punto lo vedremo nei prossimi giorni se sarà confermato o meno, che ci sarà la possibilità di connettere, diciamo, un'altra scatoletta ancora a quell'altra per i giochi. Ma poi soprattutto, Simone, scusa, se tu hai già la tua libreria giochi con 15 titoli che hai già sfruttato su PlayStation 3, potrai convertirli per la visione in streaming oppure li devi riacquistare da capo per giochi? Allora, sì, questo è stato un problema all'inizio, però pare che sia uscita fuori poi un comunicato di Sony che dice che, il problema è che capire un attimo come Sony ci ha provato, ricorda che ci ha provato con PSP e mi sembra che non sia andato a buon fine. Però loro hanno detto che in teoria ci sarà un sistema per, cioè, se il gioco tu ce l'hai fisicamente o l'hai comunque acquistato, in teoria sarà possibile, cioè, nel senso che sia confermata la licenza del tuo gioco. E comunque se sarò offline non ci potrò giocare. E quello sì, vabbè. No, ma questo in generale, secondo me, come diceva, nel senso, questo vale per tutte e due le console, ma già parzialmente era così oggi, perché vabbè, è indice di tecnologia cambiata radicalmente. Vabbè, ragazzi, d'altronde è così, cioè, comunque, vabbè, siamo un po' basiti, diciamo. Ma più che basiti, anche abbacchiati, dai. Abbacchiati a me, alla fine, senso, sarei stato più deluso se tutte e due mi avessero deluso. In realtà Sony mi ha lasciato perplessa perché ha cominciato con tutti i filipponi filosofici sul marketing, che noi abbiamo capito cosa voi volete, che poi ne abbiamo parlato successivamente in una puntata specifica anche con Luigi, e abbiamo comunque determinato che molte sono pippe mentali, molte sono comunque ricerche di mercato basate su mercati che sono anche diversi dal nostro, quindi anche per noi certe cose sono magari difficili da comprendere e via dicendo, però che comunque lì si è parlato di videogiochi, vuoi o non vuoi, e quindi io dei videogiochi ne ho visti due, tre. Esatto. Non credete, stanno innanzitutto ovviamente rilasciando via press kit le immagini ufficiali della console e del controller. Questo ritorno al controller che un po' assomiglia a quello della Xbox One, no? Sì, l'ho detto, è pressoché. Questi tasti con le lettere. Oddio, più che altro è anche comunque ha una soluzione di continuità anche molto con quella 360. No, dai. Vabbè, ragazzi, battuta finale, molto molto molto veloce, così andiamo a chiudere. Stessa scaletta. Io credo che ci sarà uno spostamento e un ritorno più, lo spostamento della lancetta nella direzione di Sony. Sì, nei primi mesi almeno, se poi non avrà il coraggio di recuperare con qualcosa di che faccia capire veramente che di pesante, si sposterà ulteriormente il bilancio a favore di Sony. Scaletta? Sì, scaletta. Sasso, scusate. Sono d'accordo con Peppe, secondo me Microsoft ha toppato, si è sprecato un'occasione d'oro, secondo poi me. Ovviamente non sappiamo cosa verrà nei prossimi giorni, ma cioè, saranno nati importanti particolari e ulteriori features, sì. Però oggi come oggi, al netto delle due presentazioni, dei dati finora acquisiti... Anche però, però la presentazione è importante, ragazzi. Esatto, è molto importante. Cioè... Anche perché comunque, cioè, ho detto, io da videogiocatore la prima cosa che voglio sapere sono i giochi, non me ne frega niente. Infatti, sì, sì, è vero. Cesare? Ma direi che finiremo tutti a comprare PS4, a meno che tiriamo fuori qualcosa di... Andiamo tutti al negozio insieme, dacci la PS4, esatto. A stronzo. Cioè, secondo me ora davvero, scusate se interrompo nuovamente, ma... A questo punto davvero ormai si avrà, diciamo, i due contendenti saranno PS4, che comunque dominerà davvero se questo l'andazzo, e poi subito dopo si affianca tranquillo Nintendo. Ora Nintendo davvero può tirare un sospiro di sollievo, scusate. Ma secondo me invece, e qui dico la mia e la chiudo, secondo me si è creato proprio un triramo. Sì. Tre oggetti che vanno in tre direzioni completamente opposte. Non si pestano i piedi tra di loro. Esatto. E secondo me, te devo dire la verità, non è manco un caso sta cosa. Perché comunque, qui stiamo parlando di miliardi, eh? C'è gente che investe miliardi e che comunque giustamente... Insomma, perché? Perché dici che Microsoft e Sony non si pestano i piedi a vicenda? Non capisco... Perché secondo me i servizi non vanno nella stessa direzione. Cioè, perché vedi che ormai i rivali di Microsoft non sono più Sony e Nintendo, sono Google, cioè Apple, esatto. Amazon. Cioè tu vuoi dire che gli affezionati di Sony andranno su Sony e quelli di Microsoft che... restano fedeli a Microsoft, restano con Microsoft non intendevo quello, è che commercialmente le macchine vanno in direzioni opposte, esatto. Non cioè, opposte una va nella stessa direzione, uno è un hub generale come praticamente sarebbe Apple TV. È un Apple TV che più ci sono i videogiochi dentro, esatto. Un altro è una console da gioco che è PS4. Esatto. E l'altra è una console più casual, resta nella nicchia di affezionati di Nintendo. Esatto. Nintendo, sì, che comunque è quel suo mondo con quei suoi giochi, con quei suoi affezionati. Esatto. Sì, sì, secondo me si è creato proprio l'ecosistema stabile, perfetto. Una ramificazione a tre. Ok, allora, ricordandovi che dal prossimo episodio, non questo che state ascoltando in diretta o che state ascoltando in differita, scaricato live, ma dal feed, scusate, ma dal prossimo episodio standard di Ideologia Videoludica ci sarà una nuova rubrica, che è una rubrica che importiamo... da una parte con un po' di tristezza, dall'altra invece con gioia, perché ci eravamo molto affezionati, che è una rubrica che riprendiamo da Tecno Diggers, che è stata ufficialmente dichiarata una trasmissione chiusa da IPN, che è Morti di Bestemmie, e che verrà riportata praticamente su Dietrologia Videoludica. Quindi insomma sarà una rubrichina finale molto veloce, dove ognuno di noi dovrà augurare simpaticamente una morte di bestemmie a qualcuno che ci ha fatto. Quindi non è più appannaggio di Alex. Esatto, no, è Alex che, essendo un suo copyright, ha donato questa sua idea format a Dietrologia Videoludica. DietrologiaVideoludica.it è il nostro sito, e tutti i Twitter lo sapete, perché stasera, insomma, vabbè, poi tanto nelle trasmissioni regolari tutti quanti i riferimenti saranno ridati. Io lascio l'onore della chiusura ad Alex, che così esprime anche lui la sua considerazione finale. Allora, prima di tutto ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito in streaming, perché fare questi esperimenti è sempre un po' un casino, ma... E finalmente ci siamo riusciti. Ma sì, all'85%, però rimandiamo per la versione più... la 1.0, cioè senza l'alfa, al keynote di Apple il 10 di giugno. Allora... Il mio punto di vista è che, appunto, sono tre console che puntano a tre mercati differenti, e dal mio punto di vista sono anche tre concezioni differenti del mercato. Sony ha una concezione prettamente nipponica, che però in Europa può andare bene. Microsoft ha una concezione prettamente americana. Non lo so se in Europa funziona l'avere l'elettrodomestico che fa tutto, che fa i videogiochi, che fa la televisione, che fa da videoregistratore, che fa da Skype, che fa. Non lo so, le televisioni che fanno tutte queste cose non hanno mai funzionato. Cioè, un sacco di gente si compra la Smart TV e poi ci ficca dentro in HDMI, Sky o qualsiasi altra cosa, si guarda la televisione, non utilizza praticamente mai tutte le funzionalità smart. A questo punto, questa Xbox mi sembra una smart TV senza la TV con dentro una bella console di videogiochi. Però il fatto che abbiano iniziato a 17 minuti a farci vedere, ok, il pezzo giusto, e non farci vedere Call of Duty, non so, a livello psicologico uno potrebbe dire che cioè, la direzione che hanno preso è abbastanza marcata. Non lo so se è un autogol, però vedo, continuo a leggere su Twitter e ho detto: perché comprarsi un Xbox One quando posso comprarmi una PS4? In effetti la PS4 è una console, una game console che ha delle anche caratteristiche social. Questo Xbox Live, questo Xbox One, scusate, è veramente un zibardone, come dico io. Non lo so, però scusate, è un anacoluto. Provate anche, non è per cosa, si vede che a me il nome mi è rimasto qua, ma provate anche a leggere questo nome Xbox One in italiano, come esce? Xboxone, mamma mia. Il binatone. Xboxone. Il binatone. Va bene ragazzi, allora ringraziamo tutti i presenti, quindi ringraziamo Giuseppe Scaletta. Grazie a voi ragazzi. Giuseppe Saso. Grazie ancora. Cesare Giraldi. Grazie mille. Ringraziamo Alex Raccuglia per la sua presenza, per la parte tecnica e soprattutto per aver allestito l'Ambaradam. Ringraziamo Justin Rosati e Vincenzo Nardelli per la pagina che è stata allestita su Justin Tech, quindi è tutto un lavoro tecnico che stiamo facendo in virtù di una versione 2.0 del nostro modo di fare podcast che probabilmente presto approderà in una nuova realtà che già esiste ma che probabilmente crescerà ancora, quindi io colgo l'occasione per ringraziare tutti perché stiamo facendo e come abbiamo fatto durante questi anni veramente un grande lavoro solo per amore e per passione, perché come tutti sanno non solo non ci abbiamo mai preso una lira ma ce li cacciamo veramente i soldi. Non faccio poi battute polemiche riferite a nessun altro, questi sono cazzi nostri, quindi continuate a seguirci perché se miglioreremo tecnicamente, miglioreremo anche dal punto di vista delle dirette, miglioreremo come contenuti, sarà anche grazie veramente all'impegno e anche grazie ai vostri contributi e suggerimenti che ci avete sempre dato. Per questa puntata e questa speciale diretta per Xbox One abbiamo già detto tutto, ricordatevi che per noi rimarrà sempre e soltanto Xbox Antani. Jamie, Progressive number one, number two employee. Leave a message at the... Hey, Jamie. It's me, Jamie. This is your daily pep talk. I know it's been rough going ever since people found out about your a cappella group, Mad Harmony, but you will bounce back. I mean, you're the guy always helping people find coverage options with the Name Your Price tool. It should be you giving me the pep talk. Now get out there, hit that high note, and take Mad Harmony all the way to nationals this year! Sorry, it's pitchy. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Aloha and welcome aboard Hawaiian Airlines. Hawaii flies with us. Now, for a limited time, new Hawaiian Airlines World Elite MasterCard card members can earn 60,000 bonus Hawaiian miles after qualifying purchases. That's 60,000 bonus miles closer to the warmth and traditions of Hawaii. Apply today at hawaiianairlines.com. Offer subject to credit approval. See application terms and conditions for complete details. Credit cards issued by Barclays Bank Delaware.